Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire, che è successo? Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti stai lontano, perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Buonasera Giuseppe, buonasera rotto in culo di Parenzo. Quel coglione che ha dovuto fare il sere pure stasera. Che cazzo lo fa? Io sto lavorando per me, che fa? Fra 2 anni vado in pensione, mi devo morire perché lui. Ma che cazzo dici sto stronzo? Tu sei quel modenese che ha detto quella cazzata ieri sera, anche stasera? Sì, ciao. Quando tu diventi vecchio che fai? Ti ammazzi da solo? Ma sì, mi autosuicido. Ma che cazzo dici? Ma tu non ci stai, ma tu non ci stai con la testa! Tu non ci stai con la testa! Io ho 62 anni, mi sono sfasciato il culo sopra il camion, fra un anno vado in pensione, devo morire perché avevo fastidio a te, a la testa di cazzo che stai in giro? Ma che dici? Ho detto, ti devi godere ancora 14-15 anni della tua vita, pagare quello che avete fatto negli anni scorsi del debito pubblico che avete pagato voi. Non ho detto che voglio ammazzare i vecchi, no, ho detto che voglio decurtare la pensione. Ma no, è ieri sera che stai a dire che vuoi ammazzare i vecchi, ma che dici? Ma che fai, te ne mangio la parola? Ma che fai, te ne mangio la parola? 40 anni sopra il camion, vado a prendere 1200 euro, che cazzo vuoi decurtare? Un imbecille! Ma come mai Silvio ha scommesso un pranzo con te proprio a Napoli? Non ci sarà stato mica un ritorno di fiamma con la tua ex amante? Siamo qui! Amici miei, a combattere per l'ultima settimana. Meno male, perché già in questo inizio di trasmissione, in questo attacco, in questo lead, direbbero gli americani, i primi schizzi di fango abbiamo tirato, reati che vengono reiterati, commessi in continuazione, vengono messi insieme circostanze le più diverse. Per fortuna venerdì prossimo a quest'ora sarà l'ultimo giorno di questa baracconata che hai messo i piedi da 6 anni a questa parte, per fortuna. Andiamo avanti adesso. L'ultima di questa stagione. Non lo so, vedremo. No, può essere che io mi ritiri. Pagato molto, moltissimo, ma può essere che mi ritiri a vita privata. A vita privata non credo. Questo non credo, con tutti i soldi che devi dare in giro per l'Italia, con tutti i soldi che devi distribuire in giro per l'Italia. Comunque, ragazzi, andiamo alle cose serie. Andiamo alle cose serie. I coglioni. No, però. Sì, scusa, molto. Dobbiamo molto, essere chiari su questo. Sei carichissimo, sei carico a pallettoni. No, non sei depresso. Sei carico a pallettoni. E sono si sentirà questa sera come sei carico a pallettoni, perché ti porterò su un terreno a te molto familiare. Sono depressissimo. Che non depressissimo. È Napoli. Ma che depressissimo? Che non depressissimo, è Napoli. Sono preso un caffè stamattina, ma sono depresso. Non posso dire che sono depresso. Sono depresso. Allora ti dico una cosa, amico mio. La notizia che viene dal comune di Roma dovrebbe in qualche modo spingerti a battagliare. Allora, il comune di Roma, ascoltatemi tutti, voi che state adesso lì indaffarati nei vostri lavori, siete sui camion, sugli autobus, in macchina, a casa, eccetera, eccetera, nei bordelli, state trombando con la vostra fidanzata mentre ascoltate la zanzara, che è una cosa che si fa abitualmente. Ragazzi miei, il comune di Roma pagherà dei mental coach, no, amici miei, mental coach per convincere i nomadi a non rubare, cioè per convincere i nomadi a lavorare, a introdursi nel mondo del lavoro. Amici miei, il comune di Roma prevede oltre 800 euro di affitto, eccetera, eccetera, prevede anche dei mental coach, che è la versione, diciamo, raffinata, chic, sì, inglese, dei famosi mediatori culturali di parenziana memoria. Sì, sì. Questa è la realtà. Come iniziativa, ti sembra giusto che noi assumiamo e paghiamo dei mental coach per inserire i rom nel mondo del lavoro? Ma ti pare una cosa normale? Ti pare una cosa normale secondo te? Ti pare mi una pare cosa normale? Un'iniziativa civile? Importante che ha preso la sindaca Raggi, devo dirlo con estrema chiarezza. Insomma, io sai, sono abbastanza Parenzo critico. Approva questa iniziativa della Raggi. Sì, bisogna vedere i risultati. Tutte queste cose qui vanno poi testate. Ma bisogna vedere sempre, che risultati poi. No, questo è quello che manca spesso. Specie sono regalie che uno fa in giro. Altra cosa incredibile che molto probabilmente troverà il consenso di Parenzo. Ricordate il poliziotto della stradale che ha fatto quel filmato lì su un'autostrada con il migrante, con la graziella, con la bicicletta? Si è scoperto che il migrante tra l'altro andava in giro anche nella corsia di sorpasso, eccetera eccetera, e lo stesso poliziotto diceva delle frasi nei confronti delle risorse della Boldrini, non c'erano particolari offese. Ma risentiamo quelle frasi e poi vi dico che cosa è accaduto, perché è abbastanza incredibile. Parenzo ovviamente sarà d'accordo. Risorse dalla Boldrini, ecco come finirà l'Italia, tutti su una graziella in autostrada a comandare. Ecco a te Roby Bar, voi che amate la Boldrini, voi che avete voluto questa gente di merda in Italia, goditi questo panorama, dottor Bar, goditelo, voi e tutta la caserma, guardate qua, le risorse della Boldrini. Tipo che dà una graziella, dice che pensava fosse una strada normale. Strano, più scherzato, proprio se non so come mai era successo. Niente, io aveva le cuffie in testa e pedalava tranquillo. Magari se avevano un camion dietro che magari gli suonava, ma cosa del genere. Le risorse della Boldrini, eccole qui, in diretta. Condividete signori, condividete! Beh, diciamo che hanno condiviso fin troppo, perché come sapete questo poliziotto è stato sospeso. Cosa significa la sospensione, caro Parenzo? Significa che questo signore, che mi sembra di aver capito oggi che guadagna intorno ai 1500 euro al mese, tre figli dalle parti del Piemonte, sin da subito, con effetto immediato, prenderà 750 euro di stipendio. Ha fatto una sciocchezza, una leggerezza, sì, un buffetto. Beh, anche casa. Perché, scusami, sentirlo, un conto è raccontarlo, leggerlo sui giornali, eccetera. Sentirlo è ancora più impressionante, effettivamente. Ma no? Ha parlato bene a rimandare il video, ha fatto benissimo a rifare sentire l'audio. Per questo video, per il video che avete sentito, per le frasi che avete sentito. Inappropriati da parte di un uomo in divisa. Inappropriati. Vi lamentate la giustamente se i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni parlano troppo. Vi lamentate voi Caravanserraglio della minoranza rumorosa. Vi lamentate. Vi segnalo il tweet della mia Filippina, che io non capisco perché non lavora la signora anziché scrivere in continuazione. Cosa ha detto? Lei dice glande liquidazione a dottore. Ha scritto appena adesso un bellissimo al dottore tweet. Cataneo. Dale glande liquidazione a dottore Palenzo. Aperta parentesi come Cattaneo, chiude le zanzala, stop per sempre Calavanze l'allio di miserabili, dice bravo. Dalle grande liquidazione. Comunque, abbiamo capito che Parenzo è a favore della punizione del poliziotto, sì, e anche a favore dei 30 milioni a Cattaneo di liquidazione della Telecom. Assolutamente, cioè, è contento, vorrebbe incassare lui, ma tutti quanti noi vorremmo incassare su questo, non c'è dubbio. Ma chiunque, ma a parte che sono soldi privati, quindi smettete di fare i pauperisti, sono soldi privati, e quindi se la vedranno gli azionisti e se la vedranno la gente che Vivendi, è stata licenziata dalla Vivendi Telecom nel passato, non saranno contenti. Ma facciano loro un'azione di responsabilità nei confronti di chi ha firmato quel contratto. Ma se è quella la cifra, lui ha semplicemente incassato quello che ha chiesto. Ma cioè non è chi ha detto che è un furto, dico semplicemente che i grandi manager, 30 milioni mi sembrano per 16 mesi, mi sembra ma eccessivo. Ma nessuno però si scandalizza, eccolo lì, è eccessivo. Non mi ma nessuno si scandalizza non se un calciatore prende cifre ben superiori a questo? Per i calciatori non ho visto degli ultras che protestano, diciamo. Adesso 30 perché milioni 16 perché mesi non ci sono molti esempi anche dai calciatori. Infatti, perché ha meno responsabilità, mi pare, il calciatore di un grande manager di un importante colosso come è la TIM. Comunque, quindi Parenzo è tutto è a la Telecom della punizione del poliziotto. No, ma non mi scandalizza a favore di un lavoratore proletario, a favore brinda anzi insieme a Cattaneo. Ti ho visto, mi hanno detto che brindato insieme a Cattaneo. Non lo conosco per neanche i 30 milioni incassati. Ma perché ti fa? Ma quanti reati vuoi commettere solo in questa prima parte di trasmissione? Non l'ho mai visto, l'ho visto una volta sola. C'è dell'altro, ragazzi, c'è dell'altro. Il signore del Partito Democratico, e sottolineo Partito Democratico, che ha detto che è giusto aver sparato, roba di anni fa ormai, al signor Giuliani a Genova. Pazzesco. E che ha aggiunto anche Beh, se ci fossi in quella stessa situazione a mio figlio, gli direi di prendere bene la mira e sparare, perché è dalla parte delle forze dell'ordine questo signore del PD. È stato, signori miei, espulso. Ti credo, meno male. È stato espulso dal Partito Democratico. Dunque abbiamo un signore che dice che i poliziotti hanno fatto bene a sparare a uno che c'ha un estintore, così cacciato. Un poliziotto il quale ha fatto... Un poliziotto, un tizio del PD, cacciato. Un poliziotto sospeso per avere semplicemente postato un video privato in una chat privata in cui parla delle risorse della Boldrini, della gente di merda che viene qua, parole che avrebbero meritato al limite una multa, un 500 euro, un 600 euro, un buffettino, un rimprovero verbale, nella propria autonomia. Rischia anche il licenziamento con tre figli da 1500 euro a 750 euro e Parenzo plaude, il quale poi dice: Cattaneo ha fatto adesso, ti scateno la canea stasera. Parenzo cosa ha detto? Parenzo ha detto che la liquidazione di Cattaneo è una liquidazione che doveva servire da deterrente per non farsi cacciare dall'azienda, perché spesso i padroni fanno pressioni sui CEO delle aziende. I tecnicismi di cui non frega nulla la gente. 30 milioni rispetto allora a quello che hai detto. Non è la cacciara. E continua a distruggere questo paese con il tuo populismo che per fortuna volge al desio. Meno 5, io sono qui a contare i giorni. Le ore, minuti, meno 5, secondi, ma no, finito, è meno 5, tra 5 giorni è chiusa. Chiude, baracca, chiusa la Claire, sulla Zanzara, via, chiuso, finito, il mondo al contrario, chiude finalmente, chiuso, avremo chiuso, diciamo che è chiuso, mi ritiro a vita privata probabilmente. Ah, ecco, quello sì. Pagato. Allora, non accettiamo gay animali, altro caso della giornata, diciamo, no? È un tizio che ha una specie di bed and breakfast, una guest house, chiamata come volete, a Bibbo Valencia. Una guest house, una... Poi in tedesco dico, deve dirlo, poi una dico house, solo una cosa, posso aggiungere una cosa? Uno, che questi tizi qua, due gay, questa coppia gay, dalle Marche vanno in vacanza a Bibbo Valencia, dico solo questo. Vabbè, ma non voglio aggiungere altro. No, ma per dire, no, uno, ma ce l'hai anche con Bibbo Valencia? No, ma Bibbo Valencia, non lo so, ma è un posto così, uno dalle Marche va a Bibbo Valencia, secondo te è normale? No, uno può, però andare, vabbè, mi pare. D'accordo, comunque, scelgono anche, di andare... Anche questo non ti va bene. Scelgono di andare in questa casa vacanza, in questa casa vacanza, a un certo punto il team... Mi pare un lager più che una casa vacanza con la il signore cosa c'era che scritto si chiama... fuori Arbeit McFry, perché per caso Filippo, fuori dalla casa vacanza uno... c'era scritto, ma scusami adesso, io non voglio fare per forza credere, obbedire, combattere, ma uno c'è potrà fuori? Scegliere chi avere in casa propria, se avere gay, no, se ritirare avere... la licenza, no, immediatamente di questo bed and breakfast o quello che è. Filippo ritirare Mondella. La licenza si chiama Filippo Mondella, dice siamo cattolici tradizionali, per questo non vogliamo gay, però ritirate uno potrà essere... la licenza, scusami subito. Però adesso siamo al di là dell'ipocrisia, io non so ancora che posizione prendere, perché effettivamente mi fa un po' schifo questo qua, perché discriminazione, che te ne frega se ci sono due gay che vengono a dormire sopra casa tua, saranno cazzi loro. Ma ti pare che lo chiedi? Ma però ti pare che uno, lo chiedi? Infatti, che cosa fa chiedere uno sotto le coperte? Ma allora cosa fanno quando vado lì a chiedere? Tu come dici, scusi, lei con sua moglie che tipo di rapporti avrà stanotte? Ma dico, scusi, anali, mi permetta, anali, non mi ma no, io non dico mai non questo, dico, per dico, dire, ma mi permetta che, frequenti mia moglie nei luoghi che più mi aggradano, caro. Se, questo io risponderei. Filippo, capito? Mondella, noi siamo cattolici tradizionali, vabbè, sti cazzi. Ma noi siamo, diciamo, dei cattolici cristiani praticanti, e lei capisce benissimo che non ho nulla in contrario, diciamo, per l'amor del cielo, per me sono persone normalissime, però cioè, obiettivamente preferiamo mantenere la nostra fede, e per noi il concetto di famiglia e di famiglia cristiana è quella lì. Sì, ma che c'entra la tua idea di famiglia cristiana con il fatto che due possono affittare una stanza? È vero che è la casa, credo la parte sotto della casa tua, accanto a dove abiti, eccetera, ma che ti frega di quello che fanno quelli là? Due, se si pigliano, se si tengono per mano, se si inchiappettano, eccetera, eccetera. E poi anche i cattolici tradizionali si inchiappettano, amico mio. Anche i cattolici tradizionali spesso sono proci. Bullezza! Parlate di Pucchiac! Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta La Zanzara. Giuseppe, quando vuoi. Parenzo! Ma vaffanculo, cosa lo fermavano a fare sti poveri poliziotti? Che non gli possono fare niente questi maledetti. Facevano una multa e poi chi la pagava? perdiamo altro tempo per le notifiche e le cose varie. Dove la notifica? Ma lascia perdere. Viva la polizia che stanno lì poveretti a fare il lavoro per difenderci. Oggi deve essere ancora più forte il grido, deve essere ancora più dura la battaglia in nome della libertà. Se quel tizio non vuole far entrare i gay nella sua struttura, è libero di farlo, la struttura è sua e ci fa entrare chi cazzo gli pare. Chiaro? Libertà, sempre e comunque, libertà. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Vi rendete conto che al Consiglio Comunale di Ancona mi dicono che stanno discutendo sulla questione delle dimissioni di quel tizio là del PD, il mitico Urbisaglia, il quale ha tutta la mia solidarietà. La mia solidarietà umana con il PD che lo caccia per un posto su Giuliani per aver detto una cosa ovvia. Ha detto una cosa ovvia, che un poliziotto di fronte a una situazione del genere con quello con l'estintore in mano spara. Può anche sparare, non è obbligato. Ma ragazzi, c'è una bagarra al Consiglio Comunale ad Ancona sulle dimissioni di questo. Urbisaglia, amico mio, questa è casa tua. Ma quale? È per 5 giorni, poi si chiude. Ma che c'entra? Si chiude e si ricomincia. Tanto si chiude, poi si vede. Tanto si chiude tutta la baracca. Così. Venerdì alle 20:50. Chiusa la baracca. Certo, i miserabili chi chiameranno? Chi chiameranno in tutto questo video? Questi miserabili? Come faranno a curarsi? Se non chiamano qui, come faranno questi schifosi? C'è anche il tuo amico Tommy a Canaglia collegato, mi sembra di capire. Chi ha chiamato? Il mitico Tommy a Canaglia. Ma chi è sta gente? Beh, uno dei nostri editorialisti di punti, Tommy a Canaglia, già pornostar, anzi no, attualmente ancora pornostar, nonché autotrasportatore, doppio incarico. Tommy, ciao, cosa Giuseppe, hai da dire? Buonasera. Ciao tesoro, dimmi Tommy. Doppio ruolo, doppio incarico. Stasera, perdonami, ma devo andare a fare in culo Parenzo. Perché guarda, sei incazzato? A te Parenzo, sta simpatico però. Sta simpatico. Io lo adoro lo Parenzo. Lo adoro tutti e due. Un porno star, Tommy a Canaglia, adora Parenzo. Anche tu hai i tuoi ammiratori. Sì, ma tanti, ma ovviamente non chiamano. Parenzo, caro Parenzo, devo dirti stasera che non vali veramente nemmeno lo squirt in faccia di mia moglie. Cioè, in che senso? Complimenti per la metafora. Non è molto appropriata, però Tommy, dimmi. Perché ho sentito che stasera tu, adesso io sto lavorando, non seguo molto bene la trasmissione, però ho sentito una cosa del genere che il Comune di Roma vuole mettere dei mental coach per i Rom. Sì, per i Rom, per i signori Rom, mental coach. Sì. Per i signori Rom. E Parenzo è d'accordo pure su questo. Sì, certo che è d'accordo, è d'accordissimo, perché lui vuole risolvere i conflitti non attraverso diciamo le norme, le leggi. Anche. Lo sai che ci sono delle bande, hanno fatto un servizio, dovresti andartela a vedere, tutti quanti dovrebbero andarla a vedere, in cui praticamente si racconta la giornata, una giornata tipo delle baby rom. Vengono fermate in metro, identificate in centrale, portate in un centro di accoglienza, da dove scappano dopo 20 minuti, picchiano selvaggiamente donne e anziani, tanto non possono essere arrestate. Ma cosa hanno c'entra? Tutte, sì, ma scappano da un da un campo rom, è tutto Giuseppe, organizzato così per mandare in giro questi ragazzini a rubare dagli 8 ai 14 Giuseppe, anni. Giuseppe, credimi, mental io coach. ho visto anche dei ragazzini, queste baby gang di rom, sputare addosso a degli agenti, insomma, a delle forze dell'ordine. Ma se ne fottono sanzionati, non c'è un po' di dubbio, ma va fatta un'opera anche sociale a fianco della durezza della legge. Ci vuole anche un'opera sociale, con sociale l'intervento di psicologi, psicologi infantili. Io ne conosco tantissime, psicologa, bravissima, psicologa infantile. Soldi inutili, Davide. No, ma che soldi inutili? Sono temi verissimi, quelli del combattere il degrado sociale. Ma cosa c'è? Basta con i soldi. La durezza della legge e con anche però terapie adatte per riuscire a inserire queste persone in un contesto civile. Ma Parenzo, ma smetti, dai, veramente ti adoro, mi sei simpatico, ma per favore, dai, Cioè, no, ma io capisco purtroppo che sono ragionamenti complessi, lo capisco, non è che... Io, allora, parente, ascoltami, ma se dovessero entrare mai un giorno in casa tua e toccare tua ma moglie... Ma comunque adesso figlia, io, scusate, spiegatemi il motivo, faresti? Perché io devo parlare con un porno attore, che fa anche camionista e va benissimo, di un tema così serio come questo. Spiegatemi voi, perché devo parlare, ma col porno attore parlerò di film... Scusami, ma... Non può avere un'opinione? Ma certo! Ti mando una foto meravigliosa dopo. Però, scusa, non può avere un'opinione, signor Tommy? Non può avere un'opinione, oppure stai lì nel tuo ghetto. Signor Tommy, a Caraglia un'opinione sui Rom. Ascolti, no, l'opinione. Io, adesso, con tutto il bene che aspetta, voglio, però, io Tommy... interloquisco anche con Tommy la canaglia, come dite voi, Tommy. La... Preferirei però parlare di questo tema con il professor Recalcati, ad esempio. Ma perché devo parlare con Recalcati, Tommy? Ma parla con gente che vive le cose normali. Andate tutti a vedere chi è Massimo Recalcati. Io preferisco parlare di questo per strada, con non questo è mai stato rispettabile. Con questo rispettabile porno attore parlerò di cose che sono attinenti al suo lavoro. Lorenzo, rispondimi soltanto a questa domanda qua, poi ti lascio. Vabbè, rispondimi. Però è una vecchia domanda, Tommy, è una vecchia domanda che è stata già fatta mille volte a Parenzo, non c'entra niente. Ho capito, il caso ho capito, ma dai, ma non puoi rispondere che chiamare. Ma non gli possono entrare, non possono entrare in casa, perché ma... giustamente io e lui, anch'io, per carità, viviamo in quartieri che non sono a contatto con questa gente. Franco da Palermo, ciao Tommy, Franco ma da Palermo. Comunque, vai. Le rapine avvengono ciao, Giuseppe, dappertutto. Una domanda per Parenzo. Ma se questo Giuliani, no? Con sì, l'estintore, anziché morire perché il carabiniere gli ha sparato, sarebbe riuscito a colpire il carabiniere, sarebbe morto il carabiniere, oggi chi sarebbe l'eroe? Ma nessuno mette in discussione. Ti devo dire una cosa, Franco, questa storia qui ormai è una storia vecchia, che bisogna affidarla alle sentenze, alla storia e quello che vuole. È tornata di attualità, però. Aspetta, è tornata di attualità perché un signore iscritto al Partito Democratico, consigliere comunale d'Ancona, si è permesso di scrivere una cosetta su Facebook in cui ha semplicemente detto quello che è accaduto e che consiglierebbe al figlio di sparare e di prendere bene la mira. Punto e basta. Ed è dalla parte tornata di attualità perché qualche giorno fa dalle pagine del quotidiano La Repubblica il capo della polizia, anche, l'attuale anche, capo della polizia, ha detto che la gestione dell'ordine pubblico durante i giorni del G8 di Genova è stata una gestione fallimentare. Simone da Milano, Simone, non ce ne frega niente. Simone da Milano, vai. Simone, ciao, io volevo chiamare per... No, ce ne frega, però è un'altra storia. Simone, andate a vederlo. Volevo chiamare perché voglio essere uno dei pochi che osanna un minimo Parenzo, perché questo uomo qua è l'unico. Ma ce ne sono tanti, dice... ce ne sono tanti. No, è sono tanti, uomo ma non chiama. Cose intelligenti in questo programma. Cioè, diciamo tu, secondo te, Parenzo... Simone, scusami un attimo, secondo te, spiegami un attimo una cosa, secondo te, per esempio, ci vogliono i mental coach? È un'idea intelligente. Bene, ottimo. Allora, Simone, ti richiamo tra un quarto d'ora. Sai che noi abbiamo questo brevissimo secondo i tempi radiofonici, brevissimo intervallo, caro Parenzo. Riprendiamo tra poco. Ciao Giuseppe, io ti voglio bene. Io ti voglio bene. Quel bastardo, questo bastardo che hai accanto, questo schifoso. Sei un gabinetto schifoso. Mentre lei sta chiamando qua, a casa sua, sua moglie si sta divertendo. Mia moglie è qua accanto a me, bastardo. Guarda nella puttana di tua moglie, perché tu sei riccione, tu sei. Guerrerami, merda, guerrerami. Tu sei riccione come Macron. Tu sei riccione come Macron. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti e le verità di Olimpia, la città dello sport, continuano a farvi compagnia anche durante l'estate, in un nuovo orario. Sono Dario Ricci e vi aspetto ogni domenica alle 16.30 a Olimpia, naturalmente qui su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin! Nel banco freezer! Dimentica i compromessi. Scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta La Zanzara. Volevo fare un appello a tutti quegli ascoltatori della Zanzara, ascoltatori per caso li chiamo io, che ci rompono i coglioni a dire che è un programma volgare e tutte queste cose qua. Volevo fare un appello con tutta la serenità del mondo, non c'è scassata la minchia, è cacciata in stazione, questa è la Zanzara ci sono parolacce per tutti, quindi non scassate il cazzo e se non vi conviene cambiate stazione, ok? Per cortesia. Naturalmente. Faccio parte della maggioranza silenziosa e vorrei fare un appello al mio leader David Parenzo. David, dovresti essere un po' più aperto, più liberale nei confronti dei nostri fratelli miserabili, perché dopo tutto anche loro sono dei cercatori di felicità. Sì, bravo, lucido. Lucido, lucido, bravo. No, no, ma che lucido, bravo. Sta dicendo, dai, semplicemente che anche quelli che vanno a puttane sono cercatori di felicità. Dai, su, cioè. No, hai senso, capito male, hai capito convocato male. Pensava volesse una soluzione complessiva di questi poveretti che... Ah, poi lui proprio specificava, no, certo, nessuna compressione, pugno durissimo nei confronti di chi fa, di chi usa il corpo della donna, pugno durissimo, non ci può essere condono, non c'è condono, non c'è sanatoria, non c'è condono. Allora, eravamo con Simone da Milano. Simone, allora, sei a favore dei mental coach per i Roma? Ragazzi, io non ci posso credere che tu sia a favore di questa roba. Dai, su. Sono Simone, degli psicologi messi apposta a lavorare su questo settore. Avanti, mi dimmi Simone, dimmi tutto, dai, dimmi, dimmi. È una proposta intelligente. Del resto queste persone, se non le trattiamo da persone, le proniamo a diventare sempre più animali. Ma già accade adesso. Siamo pieni di mediatori culturali, di associazioni che si occupano di Roma. Ma non è mai successo un caso. Perché dovrebbe essere diverso, spendendo più soldi? Modo, dai. L'unico modo è riuscire a insegnare loro, dare loro una, mostrare a loro che c'è un modo migliore di vivere, che sia interessante. E se non lo facciamo noi, tu ti ritieni una persona di una cultura superiore, Roma? No, no, francamente allora no. Male. Io francamente sì, no, tu sì, perché sei, non... appartieni alla maggioranza silenziosa parenziana, snob contro le persone che lavorano, allora, a favore snob delle liquidazioni milionarie dei super manager, no, ma eccetera, eccetera. Se le sono meritate, non ho capito qual è il problema. Meritate rispetto a cosa? Lo andate a raccontare a un disoccupato licenziato di Telecom? Ma allora il disoccupato, ma non dire cose popolari. Al disoccupato licenziato digli quanto prende Ronaldo, Ronaldinho, ma che e la minchia, dai, secca. Ma ragazzi, ma di che parlate? Ognuno deve essere ricompensato secondo le responsabilità, bravo, che si assume, secondo, bravo, i rischi, senza, che si assume. Io ho assunto delle persone iniziando un ufficio da solo in questa via Milano, e le persone che assumo, se vanno male il culo è mio. Quindi sì, ma non parlare col viva voce, però non parlare. Quindi è giusto che questa brava persona sia retribuita molto, è giusto. Ma stiamo parlando di 30 milioni, dai, su, 30 milioni, su. Senti, ma nessuno ha puntato la pistola alla persona che ha firmato il contratto del dottor Cattaneo. Nessuno. Rosario da Roma, vai Rosario, grazie Simone, vai Rosario. Pronto, buonasera. Dimmi. Mi dispiace dirlo, ma sono proprio contrario all'opinione di David. Su che cosa? Riguardo alla mental coach. Ma ragazzi, ma parliamo del mental coach. Voi veramente pensate che i mental coach per i Rom, come vuole fare il Comune di Roma, ma tanto è una cosa che non andrà mai in porto e non si realizzerà mai, come male, una cosa male. Mai nella vita, per fortuna non si realizzerà mai, sono cose scritte sulla carta di non si realizzeranno mai, oppure distribuiranno qualche soldo a qualche associazione per fare cose ridicole che già si fanno, non si capisce perché dovrebbe essere diverso rispetto a quello che già avviene adesso, dove comunque si distribuiscono dei soldi ad associazioni culturali, a mediatori culturali, adesso invece spuntano i mental coach. Di Rosario, vai, vai. Sì, ecco, c'è proprio il paradigma fondante, cioè il grande Leonardo da Vinci diceva che le persone devono motivarsi, altrimenti lo stesso studio non darà frutti. Quindi io, prima di avanzare delle teorie astruse sul comportamento, sull'induzione del subconscio e tante altre... Di che stai parlando? Scusa, non ho capito. No, di cosa stai parlando? Riguardo al mental coach, perché il mental coach dietro ha una sua filosofia, no? Comunque, non lo so, questi vogliono aiutare attraverso un mental coach che di solito si utilizza per gli atleti, per motivarli, eccetera, eccetera. Vorrebbero motivare questi Rom a entrare nel mondo del lavoro. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? No, motivare, anche fare con ma loro di un che percorso parliamo? Di inserimento. Ma di cosa parliamo? Ma già avviene, basta sprecare soldi e buttare soldi, basta. Su, Fabio da Napoli, vai Fabio. Ciao, beh, ti volevo raccontare un paio di cose. Sì, ma stai tranquillo, che cosa vuoi raccontare? Vai tranquillo. No, io ti ricordi di me, Bulgaria, Sofia, puttana, eccetera, eccetera. Beh, pure amico mio, come, in Bulgaria avete come fatto, dimenticare, bravi. Come di no, io no, che io non c'entro, lui ha raccontato. Porcheria. Finalmente arrivano testimonianze lui di viaggi che hai fatto in Bulgaria. Lorenzo. Ciao, ma lui ha raccontato, io quel che maiale che cosa ha fatto, ma io non c'entro nulla, in Bulgaria, ma... no, a sfruttare le ragazze dell'est. No, ma io non c'entro niente, però scusa, lo so, dillo. Sei andato con questo camionista, va bene, ma no, non ti devi vergognare, ma non delle sono porcherie che fai in Bulgaria. Non ti ricordi un cazzo, va bene, non fa niente. Non si ricorda, questo qua ha raccontato che era una persona un po' grossa, giusto, larga, un po' bravo, obesa. Ed è andato una volta in Bulgaria, diciamo, a prostitute, e consigliava quelli che tu chiami miserabili ad andare in Bulgaria come terra Felix da questo punto di vista, giusto Fabio? Sì, ma te ne dico due pazzesche. Sì, allora, prima cosa, mi sono scopato una femmina davanti a una chiesa. No, vabbè, no Fabio, adesso però, no, però scusa, mi pare adesso, un dettaglio adesso, anche inutile. Però. Adesso, francamente, Fabio, va bene no, tutto. No, era chiusa, giuro. Ma ho capito niente, ma adesso questo non c'entra, finché ci racconti della Bulgaria, eccetera, allora va bene, o è divertente, eccetera. Però se uno poi vuole andare là, siccome non su questo qua non ci sono prove. No, te ne dico un'altra, allora. Dimmene un'altra, avanti. Te ne dico un'altra veloce. Sì, dimmene allora, un'altra. Allora, visto che... ormai io ho provato ad avere un appuntamento alla Parenzo. Sì, un appuntamento diciamo normale, dici tu, no? Sì, una cazzata mondiale. Cioè in che senso? Uno buttamento di soldi e la scopata naturalmente non c'è stata. Vabbè, questo perché, allora, perché lei non ha alcun argomento che possa risultare e destare interesse nell'altro interlocutore, questo io lo capisco. Questo però scusami Fabio, giusto, se non c'è stata... Parenzo. Leggiti le categorie del politico di Schmidt, impari qualcosa, lasciamo cioè, stare. È chiaro comunque. Che uno come lei se non paga non porta a casa nulla. Ma sarà legittimo. Vabbè, comunque stavo dicendo un'altra cosa. Perché hai chiamato Fabio? Spiegami perché hai chiamato, perché ti manchiamo. Ho trovato il mantra della soluzione, visto che le femmine onestamente per me non hanno grosso valore dal punto di vista intellettuale. No, ma spiegami questa cosa qua, perché tu consideri le donne inferiori? Sicuramente. Poi capisci perché. Vabbè, lo dice anche dottor Lemme, però lo dice anche dottor Lemme che sono inferiori. Altro ragione. No, lascia stare. Ma perché è un sarebbe dato inferiore? Di fatto. Ma che vuol dire un dato di fatto? Ma di che parli, Fabio? Perché dovrebbe essere un dato di fatto? Scusa. Allora, prima cosa ti voglio spiegare questa cosa e poi ti spiego anche l'altra. No, tu non devi spiegare niente. Hai detto una cosa. Le donne sono inferiori. Perché sono inferiori? Sì. Perché? Allora, guarda la realtà. Vedi per esempio un politico come la Picerno. Ma lascia perdere, che quelle sono valutazioni politiche. Perché sarebbero inferiori? Fabio, guarda, la mia tolleranza sta per giungere, figuriamoci. Non mi fai raccontare quella. Comunque, vabbè, non Fabio, ci sono. Ti saluto, ciao. Ti saluto stavolta, ti abbraccio. Ciao. Attenzione, caro David, attenzione. Si è manifestato di sua sponte uno che sostiene di essere un cacciatore di rom. Attenzione, tieni bene aperte le orecchie, non ti lasciare sfuggire parola per parola quello che dirà Lucio dalla provincia di Messina, che saluto al momento con una certa come disponibilità all'ascolto, come facciamo noi di solito, no? Ascolta, no. Con due punti esclamativi, ascolta. Lucio, dimmi, Lucio dalla provincia di Messina, dimmi. Salve Cruciani, quanto tempo? Dimmi Lucio, dimmi. Ci sentiamo. Dimmi. Allora, riguardo ai mental coach per i rom, sì, io avrei un'idea. Sì, quale senza sarebbe? Senza spendere neanche tanto. Sì. Bella pistola a tamburo, 357 magnum, un solo proiettile. Sì. Gli si punta alla dentia, si fa girare il tamburo. Sì. E si comincia a togliere il biglietto. Beh, quando lo capirà questo qui che è un reato? Quando è che questo qui capirà che sta dicendo delle cose vergognose? Quando è che lo capirà? No, calma, Lucio. Quando è che sto criminale? Quando è che questo criminale si renderà conto del crimine che sta commettendo? Perché anche se dovesse bleffare questo Lucio dalla provincia di Messina e sostiene perché che i Rom vanno... Perché concordi con me anche tu che è un crimine. Beh, insomma, è un pazzo totale, ecco, è un pazzo totale, no. Che è un pazzo totale, è Lucio dalla provincia di Messina che sostiene che i Rom non hanno bisogno dei mental coach, vanno a... Ma che sta dicendo? È impazzito? Chi c'è dietro che parla? Lucio! Lucio! Ma chi sta parlando dietro di te? È mia moglie. Tua moglie che concorda con te col fatto che i Rom vanno ammazzati? Ha detto, lei è straniera, ha detto, che ha detto? Smetti di parlare con questi due froci alla radio. Pure, bella famiglia. Aspetta, smetti di parlare con questi froci alla radio, ragazzi, poi? Bel linguaggio in quella poi? Casa. Bravi. E niente, dice, sono dei coglioni, dei falsi giornalisti. Ma che signora interessante. Beh, no, signora elegante, dopo quello che hai detto, Lucio, adesso a dire a noi dei falsi giornalisti mi sembra francamente un po' eccessivo. È veramente una signora elegante. Dove è cresciuta? Buckingham Palace, la madama lì? No, è cresciuta a Binh Truong, in Vietnam. In Vietnam, sì, Lucio, però io dico, va benissimo. Allora, io dico una cosa, il signor Lucio dalla provincia di Messina, che sostiene essere un cacciatore di Rom, sostiene, oltre che essere un cacciatore di Rom, che i Rom vanno ammazzati, vanno eliminati fisicamente. Questa è la sostanza, vero Lucio? Lo vogliamo ribadire? Ribadiamolo. Chiaro e tondo. Purtroppo per la legge italiana non si può fare. Beh, questo mi sembra. Bravo, per fortuna direi, no? Per fortuna direi, o no? Si può perché usare qualche purtroppo? Metodo, diciamo, poco ortodosso che per sarebbe? Convincerli a non rubare. Per esempio? Questo della roulette russa. Ma la roulette russa? Ma che vuol dire? Ma è un omicidio? Beh, è uguale, è la stessa cosa. Cioè, è la stessa cosa. Tu vuoi ammazzarli sostanzialmente. Vuoi ucciderli. Perché non puoi essere vero. Vabbè, Lucio. Angelo dalla provincia di Palermo. Vai, Angelo. Ciao, Giuseppe. Dimmi, Angelo. Dimmi. È un piacere parlare con te. Sì, saluto anche il tuo amico Parenzo, che capisco che è lì messo per contratto. Sì, non ma per non è messo per nessun contratto, non dire stronzate. Ma contratto sicuramente, mica gratis è qui. Comunque, io telefonavo per difendere la situazione del poliziotto che è stato sospeso dal servizio. Sì. Innanzitutto, se diciamo di essere in un paese libero, ognuno è libero appunto di esprimere il proprio parere. Sì. E che la burocrazia sia una cosa inutile, lo dico pure io, anzi. Ma quello lo puoi dire, diciamo che quello è un poliziotto, uno potrebbe dire sono due cose diverse, no? Se lo dice un poliziotto, lo dice un cittadino comune. Ma alla fine è anche uno che vive in prima linea le situazioni dell'Italia, che è costretto per pochi euro, diciamo poche migliaia di euro, a stare con la quella roba lì era da rimprovero e basta. Un rimprovero, si è fatto una cazzata. Carlo da Padova, ma lo decide la polizia, per fortuna non lo decide Carlo voi. Da Padova, vai. Carlo, dimmi. Ciao Cruciani, volevo niente fare i complimenti a Parenzo, che sono perfettamente d'accordo con le cose che ha detto. Per esempio? Fare due ciacque con Eo, come si dice. Perché insomma ti se capisci pochetto, se sai, insomma, è un altro problema. Cioè io stai dicendo che io capisco poco, no? Poco, giusto? Pochino, no? Poco. Sì, sì, ma di che cosa? Umano, di che stai parlando? Di cosa stai parlando? Di qual allora, è l'argomento? Di quello che ha appena parlato il signore di prima. Cioè, un poliziotto penso che abbia delle regole. Bravo. Certo. Come che tu non potrai sputare per terra o girare mutande per gli studi, immagino, esatto. Non lo so. Ma magari a te lo fanno fare che sanno che sei strano. Bravissimo, lucido. Scusami, Carlo, io non sto discutendo, lucido, io non sto discutendo dell'argomentare. Io non sto dicendo che non ci siano delle regole interne. Da fare un video mentre certo. Fa un arresto, una roba che benissimo, ma la sospensione mi viene ma sospetto la sospensione. È doverosa, perché ci vuole rispetto nelle istituzioni. È come che il Boldrini avesse detto che il poliziotto o quel poliziotto o un capitano è un cretino, sa fare il suo lavoro, non può farlo, non va bene, non si fanno queste cose. Ma che ma ragazzi, ma sono due frasi dette così, ma in Italia succede di tutto e sospendono lo stipendio, ci sono impiegati pubblici che fanno il cazzo del comodo loro e non succede nulla, e non succede niente, nulla facenti, un poliziotto allora per un filmato e due commenti sospeso dallo stipendio con tre figli a metà stipendio, ragazzi, su, dai, vergogna. Si pensa due volte prima di sparare puttanate. Ciao Carlo, ciao. Aspetta. Dimmi. Poi c'è il discorso di quello che ha mandato fuori dal TV. Cruciani, quello ha detto una cosa, è una vergogna unica. Uno, cosa ha detto? Perché? Quello di Placanica. Ma non ha detto nessuna vergogna, ma ragazzi, ma veramente quello che ha detto, se fosse mio figlio, gli consiglierei di sparare e di prendere bene la mira. Stai bravo, bravo. E allora qual è il problema? Qual è il problema? Il problema te lo spiego, sei paziente. Qual è? Dimmi, dimmi. Un esponente politico non può dire di stare dalle parti delle forze dell'ordine? Non lo può dire? Cosa? Ma cosa c'entra? Non può dire di stare... Ma intanto le forze dell'ordine non dovrebbero ammazzare né insultare la Boldrini. Sono due cose che non dovrebbero fare. Ma secondo, ho capito, sarà la Boldrini lo denuncerà. Lo denuncerà. Punto. Esattamente. Ma quella è un'altra cosa però, che c'entra? Secondo, forse non ti ricordi l'episodio di Giuliani. Sei scordato? Non è che sia un episodio così che certo il poliziotto... Ragazzi, è troppo lunga. Ciao Carlo, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. A proposito, io avevo fatto quella discussione con Paco. Paco, che fine ha fatto? Ha detto che andava via dall'Italia. Io spero che sia già preparate le valigie. Eh già. Sembrava la fine del mondo. Sono ancora qua. Ok. Ma sono ancora qua. E io sono ancora qua. Eh già. Io sono ancora qua. Eh già, bastardo che siete. La maggioranza silenziosa è compatta con Paco da Belluno. Vai, spada di fuoco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Parenzo, tu sei un lurido bastardo, pezzo di merda, figlio di puttana. Se quel carabiniere non sparava, Giuliani con l'estintore ammazzava lui. Lo sai come si dice in Italia? Morte tua e vita mea. Hai capito? Pezzo di merda. E a quello, se ammazzava il carabiniere, non gli avrebbero fatto niente. Hai capito? Bastardo. A Cruciani, ma è ovvio, no? Ma se io sono poliziotto, al massimo faccio un video per sfogarmi, lo mando nella chat con un po' d'amici miei poliziotti, amen. Così un po' mi sfogo, no? Certo, poi c'è il pezzo di merda che condivide con gente fuori e mi manda bevuto. Ora, il problema è quello che uno è esasperato da questo, quello si ferma, gli dice fermati, quello comincia a dire io povero negro, no puoi, tu resista. Si sono rotti il cazzo pure loro, pure le forze dell'ordine si sono rotti il cazzo, rendetevene conto. Allora David, la settimana scorsa è arrivato un WhatsApp di un ascoltatore contro Sgarbi. Sgarbi. E questo WhatsApp ha provocato una reazione fortissima del professore. Beh, ti credo. Una reazione fortissima del professore. Senti il WhatsApp prima. C'aveva proprio ragione l'ascoltatore. Basta vecchi. Immaginatevi quanto è costata la spalla di Sgarbi. 10.000 euro almeno. Tutti in coppa alla sanità pubblica. Senza contare il suo vitalizio. Che schifo. Allora, questo ascoltatore, altri dicono: beh, Sgarbi non può parlare, non può dire che non vuole pagare le tasse e poi si fa curare negli ospedali pubblici, no? La risposta del professore. Senti, pacatissima. La risposta pacata del professore. Qualche idiota alla Zanzara, bench'io sia stato operato in un ospedale, dice Sgarbi che dice di non pagare le tasse e poi viene curato gratuitamente negli ospedali. Certo, vengo curato e sono consapevole della formidabile sanità che in Italia c'è quasi ovunque. E ritengo che pagare le tasse sia giusto se i servizi sono giusti, ma non ritengo di pagare le tasse per le pale eoliche che distruggono il paesaggio, le rotatorie che distruggono la viabilità, i soldi dati ai vari deputati di merda, quindi dovrei dare le mie tasse per pagare lo stipendio a Di Maio, nel culo glielo metto, a Di Maio, a Di Battista, a Verdini, a Alfano, a tutta questa gente. Quindi d'accordissimo nel pagare le tasse, ma mai oltre una cifra che diventa un furto e mai per pagare coglioni che che usano i soldi che noi guadagniamo con fatica per dare i danari a loro protetti, a loro amministrati o per stipendi grotteschi, non vitalizi per persone che hanno fatto qualcosa con il loro merito, ma soltanto gli stipendi dati a tutti i grillini basterebbero a spiegare perché è meglio non pagare le tasse. Non voglio pagare le tasse in modo indiscriminato, voglio un concordato fiscale per sapere dove vanno. Nessuna pala eolica, nessuna distruzione del paesaggio, nessuna nuvola di Fuxas, nessuna impresa inutile come il Tribunale di Firenze. Queste non voglio pagate con le mie tasse. Chiaro? E se le vuoi pagare tu, imbecille, pagale tu le tasse, coglione, incapace, testa di cazzo! No, però questo mi fa... Cioè, mi dire fa... che sono contento che si è ripreso, mi pare, no? Si è ripreso, no, bene. Si è ripreso, no, quello che è che poi uno accusa questa trasmissione di ospitare degli ascoltatori che magari si esprimono in maniera volgare, eccetera, eccetera. Ora, il professore chiaramente è un altro livello rispetto ad altri. Lui ha la licenza poetica, eh? Sì, ha la licenza poetica. Però è un tipo di linguaggio che viene sdoganato ormai da tempo. Cioè, l'attacco furibondo, sì, l'attacco frontale, utilizzando certe parole. L'invettiva, beh, sì, certo. Ma sì, l'invettiva, anche forte. Parenzo, mi tipo, quando l'attacco... antichi romani anche quando... no, ma mi piace molto, a me piace molto il climax, diciamo, il crescendo, sì, esatto, che il professore crescendo ha, perché quando tu gli fai sentire una cosa, chi l'ha detto? Di Maio? Di Maio? E lì si carica sulla la parola. Non pago le tasse per le rotatorie. Chi l'ha detto? Di Maio? Di Maio? E lì via via cresce, no? Nella rabbia. Cioè lui vorrebbe, non è del tutto folle come cosa, chiaramente è inattuabile, no? Però lui vorrebbe che ognuno di noi facesse una specie di concordato in cui dice: guardi, io ti pago le tasse, però tu mi devi dire queste tasse esattamente dove vanno. Cioè, proprio quello che io pago. E lo so, però poi alla fine non è così, non può essere così. Sì, è chiaro, no? Imbecille, pagale tu le tasse, coglione, incapace, testa di cazzo. Rivolta all'ascoltatore che vorrei che si manifestasse uno dei prossimi giorni, che si manifestasse. Allora, dove andiamo? Andiamo a Luigi Pisa, vai Luigi, vai. Luigi, sì. Dimmi. Sì, allora, senti, volevo sapere, scusa, sono al telefono con un ospedale, proprio in questo momento. Mi come puoi con un ospedale, scusa, non ho capito. È proprio in questo momento. Ma ho capito, amico mio, come ti posso richiamare ogni due minuti? Che so, che era il centralino questo qua? Pronto? Ma con chi stai parlando, Luigi? Io devo venire di persona. Va bene così o devo venire di persona? So? No, ci sono... Con chi stai parlando, Luigi? Nello stesso momento, dopo tanta attesa, sto parlando con l'ospedale. Ma quale ospedale? Che bisogno hai? Che bisogno hai? Sì. Parla con l'ospedale, facci sentire la conversazione con l'ospedale, interessante. Da dove? Sì. A Pisa? Questo qui, sì, io sono il tutore legale di questa persona, signore. Sì. E quindi vengono queste persone e le faccio la delega e le do il mio documento. Tutore legale. Va bene? Sì. Sì, ma chi sei? Tutore legale di chi? Ok, la ringrazio. Bisogna ancora. Grazie a lei, salve signora. Scusami, sì. Cruciani. Sì. Non potevo buttare giù l'ospedale. No, per carità, assolutamente. Tu sei il tutore legale di chi? Di qualche criminale, sì, di qualche minorenne? No, di chi? No, di un mio parente che ha problemi psichiatrici. Ah, ok, sei il tutore legale. Okay. Ma chiamava la zanzara, no? No, guarda. Parenzo, no, chiedo perché siamo abituati a questo, non lo dicevo provocatoriamente, veramente. Non era un insulto alle persone che hanno problemi psichiatrici, no, è andato di fatto. Noi accogliamo anche queste persone qua, Luigi, dimmi. No, va bene. Senti, ti dicevo, no, io ti sto chiamando senza fare il napoletano vittimista, spero sì, che tu dimmi. Abbia chiesto scusa ai napoletani, ma ha fatto il giornale inglese. Cioè il Sun, vuoi dire, ha tolto, come si sa da qualche giorno, ha tolto, ci ha ripensato e ha tolto Napoli dalla lista delle 10 città più pericolose. Però ho capito, ma allora perché dovrei chiedere scusa io? Hai chiesto scusa al Sun, che vuoi da me? Hai citato il giornale, come l'hai citato in negativo, dovresti citarlo in positivo. Ma sì, ma benissimo, hai fatto bene a ricordarlo, il Sun ha tolto, poi... Sì. Dunque, allora... No, e poi ti volevo dire questo: siccome gli attacchi di alcuni giornali inglesi o tedeschi, non tanto a Napoli, all'Italia in generale, quando il turismo in Italia riprende un po', e quindi vorrei che tu, a parte Napoli, io non devo chiedere proprio... scusa, io non devo chiedere scusa a nessuno. Il Sun ha chiesto scusa, non so se ha chiesto scusa, ha tolto Napoli tra le... Benissimo, anche hanno chiesto scusa e hanno tolto Napoli. Va benissimo, prendetela col Sun, io non c'entro niente. Ciao Luigi, ciao, ti devo salutare, ciao. Cosa, devo chiamare una persona, devo chiamare una persona. Ciao. Ciao. Allora David, io chiamerei un tizio che a occhio mi sembra incazzato, è uno, un poliziotto, un collega del poliziotto che è stato sospeso dallo stipendio e, dalla, e dal lavoro, quello che ha postato su internet quel video. Lui si chiama Tonelli, no, il poliziotto, il poliziotto non si sa il nome. Tonelli è un sindacalista del SAP. Sentiamo. Pronto? Sì, Tonelli? Sì. Sono Cruciani, buonasera. Salve. Come andiamo? E Parenzo? Non c'è male, non c'è male. E qual è la situazione del poliziotto? Sospeso mi sembra, no? Ah, la posizione del poliziotto è stato per il momento sospeso dal servizio a mezzo stipendio, dovendo mantenere tre figli. Sì. Per questo, voglio dire, servizio di ilarità che io mi sono guardato e riguardato. Servizio, perché... scusa, servizio di ilarità, così l'hai definito? Sì, per questo filmato nel quale vi è sì. un'ilarità. Una cosa ho accertato, non è stato lui a pubblicarlo. Vabbè, questo però non cambia, non cambia, la questione non è... cambia niente, adesso cambia, io in privato dico cioè, quello non che voglio. Non l'ha messo lui... può anche cambiare. Se poi lo mando a un amico per vedere e l'amico deliberatamente poi me lo pubblica, ma comunque il telefonino è stato sequestrato, quindi la tracciabilità dell'operazione sarà molto chiara in questo. Addirittura telefonino sequestrato? Sì, è così all'Italia. Perché all'Italia? Hanno coltellato un poliziotto e hanno liberato immediatamente il giorno dopo. Adesso la cosa va così. No, però, ragazzi, ma stiamo scherzando. Non toglie nulla. Un poliziotto, ma capito, non volete neanche che si faccia un'indagine per capire. Scusa un attimo, un poliziotto. Siete simpatici, siete. No, però scusa, un poliziotto in una chat privata, ma lasciamo perdere questo argomento. Fa un filmato di un tizio con siete una simpatici. Graziella, con una bicicletta in autostrada, fa ma dei commenti, sequestrato cellulare, ma dico, ma siamo matti? Ma certo, bisognerà verificare, no? Ma cosa verificare? Quello c'è del telefono. Gli hanno salvato la vita perché lo hanno sorpreso in galleria. Sì. E quindi al buio lo hanno scortato fuori, non solo, sul web sta uscendo un'infinità di fotografie perché è una cosa quotidiana, oggi addirittura due uscivano dal telepass in senso contrario, due biciclette, qui mi sembra che stiamo esagerando. Ma dai, un richiamo verbale, basta, su, ci voleva un richiamo verbale. Ma lo decidete voi, ma che cosa dite? Ma scusami, certo ma... che lo dico, certo che lo dico, perché non lo devo dire? Perché lo dice lei che non lo devo dire? Un richiamo verbale, ragazzi, ma è una cosa di una gravità inaudita, non è che... Ah, sì? Si... Un funzionario pubblico è quella che quando hanno coltellato un funzionario pubblico il giorno dopo l'hanno messo fuori. Ma che cosa c'entra questo? Ma che c'entra? No, quello c'entra, cosa c'entra? C'entra perché ci sono 10 pesi e 10 misure. Ma dai, ma questo l'hanno già condannato e quindi dicono. Nessuno lo ha condannato. No, lo hanno già condannato perché spiego subito com'è la questione. Nessuno allora, l'ha condannato. Tonelli, secondo te. Sospeso dal servizio. È normale. Il rapporto fiduciario. Ma come è normale? Una persona in Italia ha il diritto di difendersi, qualsiasi sia la sua condizione, soprattutto nel momento in cui ha salvato una persona, ha salvato la vita. Perché questa gente qui va in autostrada, in senso contrario, a farsi stendere. Però... questi ci sono messi dietro. Poi era inopportuno. Posso anche dire che io avrei usato nello stile un altro modo. Nella sostanza, inopportuno, bravo. Inopportuno, scusami, da un Tonelli, funzionario Tonelli, pubblico non si può Tonelli, sentire. Scusami un attimo, allora diciamo la verità. Tonelli. Quello che io sono convinto di una cosa. Vabbè, fa il sindacalista dei poliziotti, è un poliziotto Tonelli. Pure lui. Va no, bene, Tonelli. Ma infatti, fa il sindacalista, allora, hai detto bene. Tonelli, io voglio capire una cosa, Tonelli. Secondo te, se non ci fosse stato di mezzo la Boldrini, i commenti sulla non Boldrini? Sarebbe successo. Voglio vedere se 3-4 governi fa fosse stato Berlusconi oppure oggi fosse stato un rappresentante dell'opposizione, se l'avrebbero fatto uguale. Io sono Babbo Natale, se mi dite di sì. Cioè, secondo te la Boldrini ha spinto per la punizione ma a poliziotto? Figurati. Io per me è una certezza, questo è sicuro. Ma figurati. Però posso anche affermare che se fosse stato fatto al governo Berlusconi, su Berlusconi una cosa del genere, e ne hanno fatte di peggio, anche gente in divisa, oppure se fosse stato oggi con un membro dell'opposizione, questo non sarebbe successo. Ma figurati. Certo, io lo so perché mi hanno sospeso. Io lo so, ma chi sei, Pasolini? Io lo so, ma chi sei, Pasolini sei? Ma che siete che sei io lo so, io so, Pasolini diceva io so, io lo so. Nel merito, non riconoscere che questo poliziotto nel mentre eseguiva le sue funzioni, nel fare la sua funzione di pubblica sicurezza, nel momento in cui ha fatto quel video, cosa che probabilmente in servizio non poteva neanche fare, questo è il primo, adesso sta la diffusione. Ma chi l'ha detto? Già anche, io se non il servizio non può prendere un caffè se ne ha bisogno. Vabbè, mentre uno in servizio fa il video. Quindi quando, scusami, quindi quando fanno un arresto, io mi porto a casa il souvenir e riprendono la cosa col telefonino? Dai, amico mio, su. Sono cose che non vengono. Coraggio. Libertà di opinione anche per i poliziotti. Libertà di opinione. Ma quella c'è, ma non esprimere il mio pensiero. Ma infatti lui mi pare che lo esprima, no? Mi pare che lo esprima. È il sindacalista, lo esprime tranquillamente il poliziotto. Scusi, ma è vero che c'è una raccolta di denaro per il poliziotto? Domani pubblicherò lì, certo che sarà la guardia di denaro. Uno con tre figli viene messo con un percorso illibato perché si mette di fare un po' di ilarità sulla signora. Ma stiamo scherzando? Ma di ilarità, stava effettuando un servizio durante quel servizio. È forse venuto meno i suoi obblighi che gli ha salvato la vita. Senti, è un funzionario dello Stato. Io mi aspetto. Perché se un funzionario non può andare a prendersi un caffè o dire una battuta? Io mi aspetto. Ma non ha preso un caffè. Non diciamo sciocchezze. Non diciamo sciocchezze. Non ha preso un caffè. Non sono uno specchio. Ha parlato di risorse della Boldrini, per questo è stato punito. Diciamo la verità. E le risorse della Boldrini, e allora cosa sarà? Un funzionario pubblico lo sono anch'io. E allora? Ma non stava facendo un arresto. Ma non lo può dire, un poliziotto, risorse della Boldrini, ma siamo arrivati alla Gestapo. Ma quale poteva essere qualsiasi? Io non voglio dire, non sto a dire che i colleghi non gli andavano stirate le orecchie, però non si può sospendere una persona in questa maniera, ma che discorsi sono? Allora, l'hanno in via cautelativa sospeso e adesso vi dà, fanno un accertamento interno, è giusto, fanno una piccola indagine, cercano di vedere cosa succede. Ma di cosa sta parlando? Ma scusa, Tonelli, secondo te lo potrebbero licenziare? Allora, verrà sottoposto a procedimento per destituzione. Questo non lo sta decidendo la Boldrini, lo sta decidendo la polizia nella sua autonomia. Ma secondo lui c'è la mano... Anche l'altra volta l'ha deciso parte della sua autonomia. Scusi, ma secondo lei c'è stato... Domanda finale. Dunque, secondo te c'è un intervento diretto? C'è stato un intervento diretto? Questo è il mio pensiero. Comunque sia, so anche una cosa. Mi sarebbe venuto da ridere se avessero fatto due battute dietro ad Arcore quando Berlusconi era, faccio per fare un esempio, o oggi come qualsiasi rappresentante d'opposizione. Vabbè, mi venite a raccontare queste cose qui, perché loro veramente crediamo alle favole, alla Befana, Babbo Natale, a Peter Pan e a tutti. Lui fa bene il suo lavoro di sindacalista. Ciao Tonelli, ciao. Non lo faccio da sindacalista, dico la verità. Ciao Tonelli, fa il sindacalista, va bene. Difendi chiunque. Come si lotta, come si lotta, come si lotta, come si lotta. Quello lì fa il suo lavoro. Non c'è dubbio. Beh, no, ma in realtà dice una cosa molto semplice: che è stata un'esagerazione qui. C'è stata una grande esagerazione. Allora, tu stai dicendo che le forze di polizia sostanzialmente hanno forzato la mano perché c'è stato l'intervento della Boldrini. Mi pare una cosa molto grave. Spero che tu ne paghi le conseguenze. No, ma io non c'entro niente. Anche tu. No, ma lo in sta dicendo sede lui. Penale e in sede civile, dai, che mancano 4 giorni ormai. Allora senti, spara gli ultimi mostri. La donna barbuta? Chi c'è? Il mago Telma che ci parla di riforma della legge elettorale. Che succede adesso in particolare? Dostoevskij, ti posso leggere Dostoevskij? Delitto e castigo. Dostoevskij. Epocale. Tu sai che in Dostoevskij esistevano solo personaggi negativi, lo sai? Adesso parliamo delle corna. Cioè, lo ammetto, questo è il mio punto debole. Questa espressione ignobile da caserma usata da Pushkin è addirittura inconcepibile nel futuro vocabolario. E poi cosa sono le corna? Che confusione di idee, quali corna? Perché le corna? Che sciocchezze. Al contrario, nell'Unione Libera esse non ci saranno affatto. Le corna sono semplicemente la conseguenza naturale di qualsiasi matrimonio legale. Per così dire, un suo correttivo straordinario, questo, un suo correttivo, una protesta, cosicché in questa accezione non sono per niente umilianti. E se un giorno io sarò sposato legalmente, sarò perfino contento di portarle queste vostre maledettissime corna e dirò a mia moglie, amica mia, pensa che linguaggio che usavo, quasi zanzaresco, amica mia, finora ti ho soltanto amica mia, finora ti ho soltanto amata, adesso ti rispetto. adesso ti rispetto perché sei stata capace di protestare. Questa è una frase straordinaria, lo dovresti dire alla persona che ti cornificherà. Amica mia, finora ti ho soltanto amata, adesso ti rispetto perché sei stata capace di protestare. Ridete? E perché non avete la forza di liberarvi dei pregiudizi? Accidenti, lo capisco benissimo anch'io quanto sia spiacevole essere ingannati nel matrimonio legale, ma questa non è che l'iniqua conseguenza di un fatto iniquo nel quale sono umiliati sia l'uno che l'altra. Quando invece le corna si fanno apertamente come nella libera unione, allora non esistono più, sono impensabili, addirittura perdono il nome di corna. Sentite ragazzi, io non so cosa dire. Se a voi se piace, mi sposassi, tornando a casa, sì, la sì, persona aspetta, che, aspetta, se mi sposassi, fammi finire, fammi finire che sono in trans. Sì, se mi sposassi, non sono con una trans, sono in trans. Appunto, se mi sposassi contraendo un'unione libera oppure legale, in questo caso fa lo stesso, forse sarei proprio io a condurre un amante da mia moglie. Qualora lei tardasse a trovarcela, amica mia, le direi, aridaie, amica mia, le direi, amica io ti mia. Amo, ma desidero anche che tu mi stimi, quindi eccoti qua. Vabbè. Dico bene? Dico bene? La frase straordinaria è questa: amica mia, io ti amo, ma desidero anche che tu mi stimi, quindi eccoti qua. Beh, ma voglio dirti Riccardo questo, se... dalla provincia di Chieti, dimmi. Tuo commento veloce, un tuo commento mettiamo il caso, no? Ti innamori di una ragazza che corteggi da tantissimo tempo, all'inizio non ti vuole, mille problemi, mille casine, eccetera. A un certo punto la corteggi, a un certo punto le dici, vabbè, ci fidanziamo. Dopo tre giorni vai a casa sua, dopo aver preso magari un bel caffè. Tre giorni, naturalmente. No, comunque, vabbè. Vai un bel caffè, un cappuccino, hai fatto la tua bella colazione, torni vai a casa e la trovi a letto con un altro. Ragazzi, se ti piace così. Sì, dovresti dire amica sei mia. Sei felice di questa cosa? No, dovresti dire così. Mio, cioè che lei amica mia, è a finora letto con un altro. Sì, mi dovresti rispondere così. Vabbè. Amica mia, finora ti ho soltanto amata. Adesso ti rispetto perché sei stata capace di protestare. Bellissimo. Riccardo dalla provincia di Chieti, vai. Pronto? Dimmi. Allora, volevo intervenire sulla questione del poliziotto in autostrada. Vai, veloce, dimmi. Lui è stato sanzionato dalla struttura governativa perché ha commesso un illecito. Anch'io come cittadino vorrei contestargli e sanzionarlo per un illecito, però che vedo dal punto di vista mio come cittadino. Cioè? Lui non doveva proteggere quello lì, doveva lasciare far finta di nulla e lasciare che un tir da 44 tonnellate facesse giustizia sommaria. Però, la amico cosa mio, questo è pieno di garantisti che chiamano così. Però, amico mio, questo tutti non è cresciuti alla scuola, cioè, di tu, Valdi, Io la tu, penso così come cittadino. Cioè, tu pensi che il poliziotto non doveva abbandonare a se stesso la bicicletta, sì, quello il migrante con la bicicletta, in modo che la bicicletta venisse travolta da un tir? Esatto. No, ma questo qua se la scampava, per carità, lasciamo correre le cose. Cioè, tu dici, invece di intervenire e fare il suo dovere, doveva lasciare la bicicletta allo sbaraglio, in pratica. Ha fatto il suo dovere, allora perché è stato sanzionato se ha fatto il suo dovere? Beh, perché evidentemente qualcuno sostiene che mandando quel video e dei commenti sulla Boldrini ha infranto qualche regola di comportamento. Ma amico mio, con me sfondi la porta aperta, però non puoi dire lasciamo la bicicletta così a se stessa. Destino che si è scelto quello lì. Lui si è scelto quel destino lì e lasciatelo, è la libertà. Riccardo, andiamo a Mario da Bari. Mario da Bari, commento di Parenzo non c'è di fronte a questa brutalità che c'è. Quella brutalità è quella di prendere i documenti di questo qui. I documenti. Ma che documenti? Questa è un'opinione, dai, su Mario. Ma non è tutto, io non sono mai basito dal fatto che non è veloce, vai. Allora, innanzitutto complimenti perché sei meglio del cinema. Sta storia delle corna mi hanno fatto ammazzare da ridere. Se ti piace così, ragazzi. Sei il numero uno. Sei il numero dimmi, Mario, dimmi. Posso ricordare quel degenerato di Parenzo? Parenzo, devi capire una cosa. Degenerato sono io. Cioè, qui c'è l'elogio delle corna a uno, ma io non lo so. Il degenerato sono io. Ma in che mondo vivete? Ma io, ragazzi, ma se volete farvi, come dire, mi devo volete fermare, che la vostra veloce, compagna. Mario. Parenzo, devi capire una cosa. Sta Boldrini ci ha rotto i coglioni a tutta l'Italia. Non l'ha eletta nessuno. I cazzi di Negretti ci hanno rotto i coglioni. Non li vogliamo. Vabbè, non li vuoi tu però. Non li vuole nessuno. Il poliziotto ha detto la verità. Io invito i politici, qualcuno serio, a candidarlo sto povero poliziotto. Ma non c'è bisogno di candidarlo. Francamente quello fa tranquillamente qualcuno la candiderà. Comunque lo candiderà. Dirlo no. Questa gente no, la vuole nessuno. Non in queste condizioni. Però allora Mario però sta dicendo una cosa sacrosanta, caro Parenzo. Cioè le prossime elezioni tu lo sai meglio di me perché segui la politica in quest'ultimo periodo molto più attentamente di quanto faccia io. le prossime elezioni si decideranno su questo. E Mario anche, sta dicendo, si decideranno soprattutto sull'immigrazione, e il PD e altre forze governative, purtroppo, magari a torto o a ragione, sono identificate come il partito dell'immigrazione. Beh, come il partito, non mi pare, ma sarà sbagliato così. Ma è così, magari non lo so, magari la gente è favorevole, non lo so. Ma fermi hanno tutti. Anche rinviato lo Ius Soli, ma di che parlate? Appunto, e quindi appunto, che partito degli immigrati fermi, è? Ma che dite? Fermi. Che dite? Basta. Fermi. Noi dobbiamo fermare l'Islam. L'Islam in Italia non deve esistere. Ma chi è il Papa? Ma chi è? Io sono Cristo. Io sono Cristo! Quellatemi! Io devo salvare l'Italia! Pagali tu le tasse, coglione, incapace, testa di cazzo! La Zanzara. David, potresti andare a fare in culo tu e l'amico tuo Macron? Mando offendere però, e manco mi denunciare che io c'ho paura. Hai visto Macron? Hai visto? È meglio lui della Le Pen. Parezzo! Non si entra nell'angolo rotture della Zanzara! A questo gioco al massacro io non ci sto. Cannabis, eroina, cocaina. No, la Zanzara. Ore 19:30. La mia ragazza vi sta aspettando. Inventata scusa puerile per finire di ascoltare le puttanate di Parenzo e Cruciani. Amica mia, siamo al top. Naturalmente. Allora ragazzi, di nuovo in onda, ascoltatori, caro David, ascoltatori, devo dire che è abbastanza incredibile quello che è successo nei giorni scorsi. Due signori, uno molto diversi tra di loro, lo voglio ripetere, uno è un consigliere comunale del Partito Democratico, il quale ha semplicemente detto quello che tutti pensano, cioè che era giusto sparare al signor Giuliani in quella giornata di Genova di tanti anni fa. Non solo ha detto questo, ha detto anche, se ci fosse la mio figlio, gli direi di sparare correttamente, di prendere bene la mira. Niente di più normale. Sospeso, anzi cacciato dal partito. Cacciato dal partito, credo, dal Partito Democratico. È normale dire di sparare a una persona. Ma che siamo matti ormai? Ho capito che, ma ho capito che ormai nella Crucialand, che sarebbe la terra di Cruciani, nella Crucialand è evidente che tutto ciò che sembra è tutto al contrario. Nella Crucialand tutto al contrario. È giusto che fare delle gangbang con 30 persone, è giusto fare le scambi delle compagne e portare la propria compagna anziché al cinema. Ma cosa c'entra questo? Con adesso altre 4 persone fare il rassemblement, è giusto che uno spari per strada, è giusto che un poliziotto riprenda. Ma cioè, non ha detto nel niente Crucialand di strano. C'è questa regola, ma la vita lì non siamo a Crucialand. Crucialand è dalle 18:30 alle 20:50, quello è Crucialand. È giusto squirting, è giusto fa tutta questa massa di porcherie, vanno bene dalle 18:30 alle 20:50. L'altra cosa incredibile nel mondo che normale, vabbè, non è normale. Questo l'altra ti cosa dire incredibile è che un poliziotto, come avete sentito, padre di 3 bambini, da 1500 euro di stipendio a 750 per avere espresso le proprie idee. No, ma non è espresso per le avere espresso è un funzionario dello Stato. E va bene, ma parlano tutti in Italia, cani e porci. Ma non può parlare, dire? Non può fare uno scherzo un poliziotto. Uno capisco, scherzo, un'ammenda, un rimprovero scherzo verbale, ma a metà stipendio. Ma deve essere verificato intanto tutto. Apriranno un procedimento se interno. Non, la verità è questa: se non ci fosse stato di mezzo la Boldrini, non sarebbe accaduto. Questa è la mia ma convinzione. Figurati, non sarebbe accaduto. Ma figurati. Questa è sicura al 100%. Vabbè, andiamo con gli ascoltatori, dai, chi c'è? Antonio, da dove chiami, Antonio? Pronto? Da dove chiami, Antonio? Da Lecce. Da Lecce, vai, dimmi. Niente, io volevo intervenire sul discorso del sindaco Toscano, la donna che ha fatto una multa perché andava a puttane. Cioè, sostanzialmente vuoi parlare di mignotte, questa è la sostanza. Certo. Sì, è certo. Come non c'è normale. Come normale, niente, no? Io voglio dire, io veramente col sindaco gli dico così, a parte che ha sbagliato a mandare l'avviso in casa e quindi accumulato un casino in casa. Vabbè, e poi allora... se vuole fare sta roba qui, che è l'alternativa, no? Che aprisse le case chiuse. Ma non può aprire le case chiuse da sola. Quindi... perché non può aprirle? Ma perché non può farlo, non lo può fare, non c'è una legge che le ha abolite le case chiuse, chiaro? Dunque non si può fare. Purtroppo. Ma, però purtroppo vedete sempre in culo il. Guarda, la realtà è una sola. Accanto al comando della provincia, me l'hanno segnalato gli ascoltatori, accanto al comando della polizia locale di Empoli ci sono delle cinesi che si prostituiscono in casa. Accanto al comando della polizia locale di Empoli ci sono delle cinesi che, peraltro, pare che chiamino anche dal balcone, facciano dei cenni dal balcone. Così mi hanno segnalato. Dottore, mi hanno segnalato dottore, questo. Dottore, esatto, dottore, carità, dottore, può venire su, può venire su. Ma è quello che mi hanno segnalato, per cui è un'ipocrisia assoluta. Ma no, ma totale. È un immondezzaio. La multa a quel poveraccio, un'altra multa che è stata fatta con invio a casa, è una follia, lo volete capire o no? Antonio, hai da aggiungere qualcosa? No. No, okay. Vabbè, Sandro da Roma, vai Sandro. Non sento niente, andiamo a Carlo, vai. Carlo da Milano, vai Carlo. Pronto, Cruciani, Parezzo, salve. Allora, immigrati, sì. Alcuni fatti, sì. Boeri ci dice che grazie ai contributi degli immigrati manteniamo i nostri pensionati. Persino la Fornero ha detto che non è vero, eh. Attenzione, anche la Fornero ha detto, non è proprio così, per cui figuriamoci. Cioè, sembra che nei giorni scorsi avesse parlato l'oracolo. L'oracolo Boeri, che ha detto senza gli immigrati siamo morti. Poi è stato una pare che parli perché hai i numeri in mano. Ma basta, però, dai. Ma è interessante un'altra cosa interessante. Allora, dice Boeri ineffabile, con un po' di pudore, naturalmente. Questo vale più o meno un punto di PIL, sono 15 miliardi. Vabbè, poi dai, dire, non andiamo sul tecnico, che vuoi dire? Stiamo rubando 15 miliardi i nostri simpatici immigrati. Sì, ma cosa vuoi dire? Spiegami. Ma perché non rubare un po' di più? Allora, bisogna... non accogliere, raccogliere. Se noi raccogliamo molti immigrati, questi contribuiscono molto di più e ci danno 15, 20, 25, 30, 40, 50 miliardi ai nostri pensionati. Magnifico. Allora, non si tratta di accogliere a braccia aperte, ma raccogliere a non ho capito aperte. Niente, che cosa vuoi dire? Una sottile ironia che vuoi fare? Non ho capito cosa. Certo, è ovvio. Non ciao. È accogliere. Ciao, Clemente, provincia di Macerata, vai. Ciao Gruciani e ciao Lorenzo. Dimmi, io ho chiamato per la storia di Giuliani. È l'assurdo dell'Italia che un tipo in canotta e passa montagna che cerca di ammazzare una persona brandendo un estintore, poi venga portato sugli scudi e gli dedichiamo una stanza all'università. No, l'università non lo so, può darsi alla Camera, sicuro fu all'epoca al Senato, alla Camera. Sì, non quelle buffonate all'italiana dell'ipocrisia. Non c'è nessuna buffonata. Non c'è nessuna buffonata. Come non è una buffonata? Non c'è nessuna buffonata. Un bravo ragazzo che in passamontagna aggredisce un carabiniere, quello è tentato omicidio, a un certo lo facciamo un eroe. E che dovremmo dire per nessuno tutti i carabinieri? Nessuno lo ha trasformato in un eroe. Nessuno l'ha trasformato in un eroe. Una parte della sinistra, dei morto in una mala gestione dell'ordine pubblico, come è stato detto dall'ex capo, della polizia, l'ex capo della polizia, dottor questo? De Gennaro. Allora, a detta del nuovo capo della polizia, il dottor De Gennaro ha svolto i suoi capicchili sotto a Genova, hanno svolto malissimo il loro ruolo di gestione dell'ordine pubblico. Ma cosa c'entra? No, questo c'entra nel merito della vicenda di quando morì Carlo Giuliani. Vabbè, Clemente, secondo lei non ho capito, meritava una pallottola? Meritava una pallottola? Se lui cercava di ammazzare quella persona, quell'altro è legittima difesa, si è dovuto difendere. L'assurdo in Italia è che uno in passamontagna possa permettersi di fare delle cose, perché quando viene dalla sinistra. Ma non stiamo parlando di questo. Mi piace la voce, questo qua, la voce, come dire, quasi, no? Questo signore ha una voce particolare. Grazie per il signore. Quanti anni hai, Clemente? Non ho capito. È 66. 66. Vai, Fiorella, da dove chiami, Fiorella? Buonasera, chiamo da Udine. Vai, dimmi Fiorella, dimmi. Buonasera soprattutto alle persone di destra, poi mettiamoci anche quelli di sinistra. Vabbè, vuoi fare una discriminazione? È una preferenza. Sì, no, a tutti, ma in particolare a quelli di destra. Vabbè, ma chi se ne frega? Allora, chi se ne frega. Io volevo dire una cosa fondamentale a Parenzo. Sì, io non sono una persona tendente all'ira, però lui è capace di tirare fuori il peggio di me. Meno male. E il desiderio più recondito è quello di dargli gli schiaffi a due fino a quando diventano dispari. Lei, però scusami, quindi, io pensavo che il desiderio recondito fosse quello di sottomissione, sarebbe stato molto più sarebbe stato molto più sexy. Con gli uomini di sinistra non avrei nessun tipo di piacere, tra l'altro. Perché scusa, non ho capito. Non sei mai stata con uno di sinistra? Non sono bravi a letto, non sono bravi a letto. Questo francamente questo è proprio viene è stato... fuori si evince da un sondaggio fatto fra colleghe. Ma colleghe di che cosa? Quali colleghe? Colleghe di che? Allora, guardi, se lei sta facendo delle insinuazioni, io le rispondo pertinentemente. No, ma colleghe di che? Pertinentemente di che cosa? Mestiere, per fare quell'antico mestiere bisogna essere belle, quindi persone che la circondano non sicuramente non lo possono fare. Ma io non ho parlato di nessun mestiere, scusa, no, Fiorella, non ho capito. Tu che mestiere fai tu, scusami? Io sono un insegnante. C'è un insegnante, non ho capito bene. Mi stai dicendo che quelli di sinistra, secondo questo tuo personalissimo sondaggio, insieme a tue colleghe, cioè insegnanti, scoperebbero meno bene di quelli di destra, esatto, giusto? Esatto. Vabbè, ma noi esatto cosa? Ma di che parliamo? Esatto. Capisci che ormai qui passa tutto delle cose che sono delle cose folli. Guardi, allora io con questo individuo che sta parlando, questo energumeno che sta parlando, mi sembra che si chiami Parenzio, mi sembri. Lei è la negazione di qualsiasi sessualità. Ma è la negazione assoluta. Della mia più profonda indifferenza, guardi. No, però scusa, la negazione di qualsiasi romanticismo, la negazione e la negazione di qualunque cosa. Sì, ma guardi, io sono estremamente romantica, però con uno lei è la negazione lei, anche per un invito a cena, è una cosa come lei, ma guardi, si rifaccia gli occhi prima di parlare, tutti si rifaccia gli occhi. Ho e la si fortuna rifaccia tutti soprattutto giorni. Il cervello. No, ma scusami Fiorella, io voglio insegna a scuola? Lei ha un solo neurone che va lei da insegna su, a scuola? Fortunato quando va giù per le donne di sinistra fino a quando non vanno con quelli di destra. Ma insegna? Lei insegna? Ecco, mi dica dove perché certificati non... di lodevole servizio. Lei deve solo tacere. Lei è un insegnante. Quindi lei è un insegnante. No, per capire il degrado della scuola italiana. Lei è un insegnante. Ciò che mi dice non mi abbiamo tace. Capito il disastro della scuola pubblica italiana. Abbiamo capito il motivo. Morto della mia più profonda indifferenza. Ma sì, ho capito, amica. Ma è un disco rotto. Sono di sinistra, ecco perché nascono poi gli emeriti ignoranti come lei. Però scusi, signora, Fiorella. Fiorella, io scusami. Ho fatto materiale da casa da dove che? Si parla anche di foibe perché voi occultate tutto. Ma voi chi? State occultando la dittatura? Ma voi chi? Fiorella, al governo, ma quale dittatura? Aspetti. Ma dov'è la dittatura? Ma insegna la signora, questo è grave. Pensa che nessuno vi ha votato. Mariotti, ma io non sono mai neanche candidato. Ma non c'è nessuna dittatura. Ma non insegna, dimmi la verità, dimmi che non insegna questo, no, perché sennò no, mi preoccupo. Ma dove insegna? Ma andiamo agli ispettori subito. Non ti preoccupi, no, dal dottore ci va lei da uno bravo. No, gli ispettori ho detto, gli ispettori del ministero. Ma ripeto, a lei ci vogliono gli schiaffi a due fino a lei, quando non diventano. Lei è un insegnante, vero? Lei è un insegnante, vero? Io un demente. Capito la ragione della fuga dei cervelli. Non posso dirlo, la gente va all'estero. Demente come lei è impossibile. Lei insegna, anche vero? L'insegnante di sostegno ci può. Perché lei è repassario. Ecco, offende pure. Lei insegna. Ma dove quindi lei insegna? È un repassario. Come i mattoni. Fiorella, d'accordo, abbiamo capito. Fiorella, dove insegni tu? Io insegno nella scuola primaria. Nella scuola pubblica. Ah, yeah. Nella ah scuola quindi primaria. Forma pubblica, pubblica, ragazzini, pubblica, bambini. Scuola I pubblica. I miei alunni conoscono sia i concetti della storia della sinistra che quelli della destra e scelgono liberamente. Fiorella, ma dove hai capito? Da dove viene? Aspetta, ferma. Ma dove viene? Da dove viene? Nei libri da dove, da dove viene la tua convinzione che quelli di destra sono più bravi a letto rispetto a quelli di sinistra? Allora, io personalmente ho sempre trombato con quelli di destra, ma le mie colleghe che questa. Hanno avuto ma cosa vogliamo dire? Vogliamo buttare un linguaggio comune che lei usa? No, veramente no. Usa al limite io lo uso, al limite io. Ma non ho capito, no, quelli di sinistra quando trombano, quelli di destra cosa hanno di più secondo lei? Sicuramente conoscono meglio la morfologia di una donna, perché quelli di sinistra, quelli di essendo di trocloditi, sono sempre lì. Insegna la signora, vero? Interessante. Insegno, certo, ciao Fiorella. Ma chi è quel pazzo che affida i bambini a questa qua? A tutti quelli di destra soprattutto. Ma perché ancora questa storia? Questo qui lo dice a tua sorella. Ciao, ciao, qui. Ciao. Ma chi è questa qua? Ciao. Ma questa qui è tua sorella, tua ma madre, chi è sta qua? La tua famiglia. Ma chi è sta qua? È un insegnante. Ma questa dove ha studiato? Harvard? Fermi. Ma chi ha preso il bachelor a Harvard? Fermi. Questa? Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi. La zanzara. Sono venuto dalla Germania a Mantova per cercare quello stronzo di Mauro. Dov'è? Dimmi, dammi l'indirizzo che lo piglia a calci in culo a quel figlio di puttana. Ciao. Poca figa massaggio. E a me non me ne frega niente. C'ho due gatti, amore mio. Dimentica i compromessi. Scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta La Zanzara. Ciao Cruciani, volevo soltanto dirvi che la trasmissione sta esagerando. Io vi chiamo dal Senegal con una connessione internet, ma sento degli insulti tremendi, veramente la libertà di espressione non dà tutto, c'è un po' di quello che si dice, ok? Secondo me dovete cercare di abbassare i toni, di abbassare gli insulti razziali, perché quello che sento sugli africani, sull'Africa, veramente esagerato. Va bene, sì, si può scherzare, ma con questi insulti, secondo me, è indegno di un ambiente che si dice intellettuale, un ambiente dove si riflette, ok? Vi ringrazio. Un minuto di silenzio per l'ultima settimana di Zanzara. Ancora poche dosi buone di Zanzara e dopo metadone di podcast fino a settembre. Allora, caro David, vorrei dire al senegalese molto parenziano che ha mandato quel messaggio, posso confermarti che era dal Senegal, perché c'era una un telefonino, magari poi era in Italia, non lo so, utilizzava una carta senegalese, e che, amico mio, va benissimo, per carità, sei molto parenziano, però le lezioni sulla libertà dal Senegal, ecco, sulla libertà di espressione, francamente no, cioè, ne facciamo anche a meno, ecco. Ne facciamo anche a meno, amico mio, ne facciamo a meno, proprio da quel posto, proprio da quella parte dell'Africa, amico mio, lezioni sulla libertà di espressione, sui limiti della libertà di espressione non ne riceviamo. Siamo contenti di averti tra di noi, ma non ne riceviamo di lezioni, no? Ma come, no, come dire, c'entra, questo c'entra, non vuol dire, c'entra, come c'entra, c'entra, c'entra, assolutamente quello... c'entra. Mi fa sta male, sento dalla voce che sta male. Allora, ricicciano gli animalisti, caro David. Cosa è successo? Come sai, c'è stato questo caso di un signore che si chiama Angelo Metlikovic, vicino a Trento, che è stato aggredito da un orso. Stava passeggiando, eccetera, eccetera. È stato aggredito, è stato praticamente salvato dal cane che ha distratto un attimo l'orso. Il punto fondamentale è che, al di là di tutte le discussioni sul ripopolamento degli orsi, il Trentino Alto Adige non me ne frega niente. È evidente che qui c'è un pericolo chiaro, visibile, un pericolo concreto. Cosa fare? Beh, bisognerebbe farlo fuori, secondo me. Sarebbe la cosa più logica, farlo fuori, o comunque sedarlo. Winnie the Pooh. Cioè, no, ragazzi, ma metterlo in condizione di non nuocere, metterlo in uno zoo, darlo al signor Togni. No, ma non è possibile. No, ma non è possibile. Non è possibile fare altrimenti. Ti segnalo che la battaglia è talmente Togni è in grado. In Italia non si può fare niente, perché se tu dici l'orso va ucciso perché ha praticamente squartato un essere umano, ti dicono no. Per esempio, la signora Martani: se viene ucciso l'orso, denuncerò Ugo Rossi, che credo che sia il presidente, no? Se non sbaglio, della provincia o della regione, non mi ricordo, alla Corte Europea per la difesa dei diritti degli animali. Rispondono alla signora Berlusconi Martani. Berlusconi ricorre alla Corte Europea. Berlusconi, sì, esatto, dell'Utri, sì, Bruno Contrada, no l'orso. No, di che cazzo? Adesso mi arrabbio, ma di che cosa state parlando? No l'orso! Berlusconi ricorre, dell'Utri, Contrada. Allora, alla Martani rispondono animalisti ancora più estremi, sempre donne naturalmente. Purtroppo l'impressione che finirà come con Danica, te lo ricordi l'orso Danica, no? Non mi ricordo. Umani di merda, umani di merda. Disprezzano l'essere umano, questo è il punto. Comunque, guarda, io ho voglia di sentire questo signore che si chiama Angelo Metlico, perché ripeto, perché la sua testimonianza può essere preziosa. Vediamo se ci ricostruisce quello che è successo. Vai. Pronto? Sì, Angelo? Sì. Ciao Angelo, sono Giuseppe Cruciani, Radio 24, ciao. Sì. Ti disturbo? C'hai la voce? Come va? No, sono a letto, è per quello che sento la voce un po'. Come va in questo momento? No, meglio di ieri. Ieri mi hanno operato, oggi sto già meglio. Mi danno degli antidolorifici. Va abbastanza bene rispetto a come ero conciato. In quanto tempo dovresti recuperare? Non me l'hanno detto, perché ho il braccio che praticamente è stato lesionato sia i nervi che il muscolo. Ah. E allora dovranno vedere più avanti se perché ho le dita appunto bloccate. Ma ti hanno detto che riprenderai la funzionalità sia della... Mi ha detto 9 su 10, sì. 9 su 10. Dunque, meno si male. Può dire che sei stato fortunato da un certo punto di vista. Esatto, ma tanto fortunato. Cos'è che ti ha salvato? Il cane oppure la tua, che ne so, il caso, la fortuna, cosa? Ma guardi, io sono stato aggredito alle spalle. Sì. E niente, mi sono girato in quel momento, me lo sono visto in piedi. Sì. Mi ha buttato per terra. Sì. Io sono caduto di schiena e poi mi ha preso per una gamba e mi tirava, mi ha fatto fare 1,5 metri, 2, tirandomi. Poi mi ha preso l'altra gamba e poi mi è venuto addosso con sopra il corpo praticamente per prendermi la testa, il viso. Mamma mia. Mi sono protetto con il braccio, e allora terribile. Perché col muso tentava di spostarmi le braccia per prendermi il viso. Ah, proprio la volontà sì, proprio di prenderti il viso e di ucciderti sostanzialmente. La volontà era di ammazzarmi. Mamma mia. Da quello che ho capito io. Certo, e diciamo, da quello che ho letto sono stati i cani. No. Ho un cane, sì. Che mentre avevo addosso a questo orso che aveva il mio braccio dentro nella sua bocca, il cane da dietro ha cominciato a ringhiare, a baiare. Certo. Non l'ha mosso, perché gli stava sempre nel momento. Però lo ha distratto, diciamo. Però l'orso poi se l'è presa col cane. Per fortuna, gli ha corso dietro al cane e io sono rimasto lì. Gli è salvato la vita. Sì, ecco, ma dopo... tu com'è che ti sei imbattuto in quest'orso? Cioè, ne hai visti già parecchi, è la prima volta che no, hai incrociato? No, io vado tutti i giorni vado in montagna. Sì. È il primo orso che vedo, non avevo mai visto uno. Sapevo che c'erano, perché ci sono state già diverse aggressioni. Sì, sì. Quello prima di me gli ha preso in bocca la testa, solo che era un po'. Ecco, no, la cosa che voglio chiederti, adesso si sta scatenando questa caccia all'orso, secondo te che cosa dovrebbero fare? Dovrebbero ucciderlo? Allora, o va eliminato e se no lo portano in un recinto, perché questo orso è lo stesso orso che ha fatto un'altra aggressione. Sì, sì. Quell'altro signore, sì, oltre ad avere la faccia rovinata, ha un braccio inusufruibile che non può più muoverlo. Molti animalisti dicono basta con questa caccia agli animali, in fin dei conti sono stati... Gli animalisti dovevano essere lì al mio posto l'altro giorno. E cambierebbero idea. Che rapporto hai con gli orsi, cioè con gli animali in generale? Cioè, come li consideri? Un orso come lo consideri? Per me sono bestie che vanno tutelate, però nel Trentino il posto per gli orsi sarebbe di 20 orsi. Sì. Ce ne sono, guardi. Quasi 50, no? 50. Parliamo di oltre 100. Mamma mia. Ah, oltre 100 addirittura. Il territorio sarebbe per 20. Naturalmente, quando ce ne sono troppi, perché vengono giù adesso vicino alle case? Perché non trovano, ce ne sono troppi e non trovano più da mangiare in montagna, allora scendono, no? Vicino alle case dove trovano. Certo, se li trovano sugli alberi di ciliegie a 30 metri dalle case. Adesso la stanno cercando, hanno già il DNA, hanno trovato il pelo dove gli ho dato i vestiti. Quindi dai miei vestiti. Sì. Dunque, se la fanno fuori, a lei non è che, cioè, non, lei tira un sospiro di sollievo da un certo punto di vista. Sì, perché un orso che aggredisce una volta poi continua. Praticamente questo orso non ha più paura dell'uomo. Dunque, è il caso di farla fuori questa qua? Io penso sì, detto fra noi, sì. Beh, di eliminarla. Insomma, certo. Va bene, grazie. Grazie. Si riprenda, si riprenda. Va bene, buonasera. Viva l'uomo, sempre. Ciao. Grazie. Lasciati un parento e alla defecazio non ci penso. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la zanzara. I nani. Dove cazzo sono sti nani? Non li vedo più! Voglio i miei nani indietro. Ridatemeli! Li avete visti sulle rive del fiume. Li avete visti sulle rive del fiume. Il tipo che dice di scoparsi le mogli dei mariti che vanno a puttane è veramente un è un maschio beta, un cavaliere bianco che fa il femminista da una vita per cercare di racimolare due briciole di figa e non ce la fa mai, e poi fa finta, lo dice anche lì, ti danno anche il culo, ma che cazzo dice, ma dove l'hai visto il culo, coglione? Non riuscivo a dormire, non riuscivo a prendere sonno. Allora ragazzi, io voglio riprendere uno dei temi principali di oggi, cioè il signore del bed and breakfast, guest house calabrese vicino a Vibo Valentia, il quale non vuole gay e animali. Poi tra l'altro nella risposta incriminata data alla coppia di omosessuali che dalle Marche volevano passare qualche giorno di vacanza in Calabria, c'è scritto: non voglio essere troglodita, però noi non vogliamo gay e animali. Poi ha spiegato, lo sentiamo, che siamo cattolici tradizionali e dunque non siamo per la famiglia gay. Filippo Mondella, Vibo Valentia, sentiamo. Noi siamo, diciamo, dei cattolici cristiani praticanti, e lei capisce benissimo che non ho nulla in contrario, diciamo, per l'amor del cielo, per me sono persone normalissime, però obiettivamente preferiamo mantenere la nostra fede, e per noi il concetto di famiglia e di famiglia cristiana è quella lì. L'accostamento tra gay e animali. Guarda, ho risposto mentre guidavo, quindi non ho rispettato la punteggiatura, ma non volevo assolutamente offendere nessuno. È una casa casa privata. Mi dispiace sicuramente dell'accaduto, c'è stata forse una cattiva interpretazione della stampa, in quanto non è una struttura pubblica ma è una casa privata, quindi le persone affittiamo una casa privata, quindi non stiamo parlando di un bed and breakfast. Comunque, perché adesso se lo Stato ci obbligherà, un tempo sentiamo. Poi quando lo Stato farà una legge forse che perseguiterà, cioè ci obbligherà insomma anche ai privati ad accettare chiunque, vuol dire che monitoriamo rispetterò le leggi italiane. Cioè lui vuole dire sostanzialmente, questo signore, che finché non ci sarà un obbligo di accogliere chiunque, obbligo che secondo me c'è già, lui ha il diritto di dire noi a casa mia, sopra casa mia che affitto, io i froci non ce li voglio. Cioè non voglio una coppia omosessuale, non voglio, poi magari con una coppia lesbica ci potrebbe ripensare, magari, dico io, però una coppia omosessuale di maschi sopra casa sua, siccome loro sono a favore della famiglia tradizionale, non ce la vogliono. Alcuni dicono che bisogna boicottare, che l'omofobia, che va addirittura denunciato questo signore, tanti altri che ci hanno scritto invece dicono beh, alla fine c'è anche la libertà di affittare casa propria alle persone che ci piacciono, cioè alle persone che vogliamo, cioè se non voglio due gay sono libero di non affittare la casa a due gay, sì o no? I sondaggi della Zanzara, sentiamo le persone intorno a questo luogo, vicino a questo paesino di Vibo Valentia, persone che affittano case e stanze, sentiamo come la pensano. Pronto? Sì, buonasera, Associazione Italiana dei Sondaggi, posso porle una domanda, signora? Lei affitterebbe una camera ad eterosessuali? No, non avete altro da fare, avete molto tempo da perdere. Signora, no, non è queste domande, no. che significa? Signora, significa che le stavo chiedendo se affitterebbe una delle sue camere ad eterosessuali. No, assolutamente no. Pronto? Sì, buonasera, Associazione Italiana dei Sondaggi, AIDS. Signora, lei affitterebbe una delle sue camere ad eterosessuali? Non saprei, preferisco non rispondere. Mi è sembrato di capire che gli eterosessuali non le stanno poi tanto simpatici, quantomeno mi è sembrata incerta. Sì, sono incerta. E allora mi dica, perché le stanno sulle palle? Ma non ho motivi specifici. Cioè le danno fastidio, Ecco, appunto. Pronto? Lei affitterebbe una camera ad eterosessuali? Momento, mi faccio parlare così, gentilmente. Mi dica. Sì, io l'affitto. Se poi sono eterosessuali sono fatti loro, non sono fatti che riguardano a me. Noi qualche volta, sì certo, sempre, noi qualche volta utilizziamo termini che il 90% delle persone non conoscono, come è evidente da questo sondaggio. Intanto, per non dimenticare, tipi da Zanzara, Donato, vai! Tipi da Zanzara. Donato, buonasera. Donato, buonasera. Salve, Giuseppe, salve. Che è successo? Salve, Giuseppe, ormai sembra una star quasi. Salve, Giuseppe, è un miserabile. Giuseppe. L'unica cosa che mi fa sentire molto triste, perché io ho pochi secondi. Per i miei italiani. Sì. Ma quelli tuoi italiani, allora, non sei nessuno. Renzi, no? La sinistra che deve essere delegittimata. E io quando dico che tutta la sinistra deve essere delegittimata, vuol dire? Un colpo di Stato senza violenza, prenderli a manettarli. Ripeto ancora, Bersani, Prodi. Tutta sta federazione umana Bersani, che non serve a nulla, perché si è mangiato pazzo soltanto l'Italia. Questi esseri sono esseri abominevoli che dice? Non sanno nulla, sanno soltanto. Eccolo. Senti come si carica. Come senti loro conto corrente. Se passa lo Jussoli, anche certo, promosso da quel bandito che un giorno tu mi dovrai spiegare perché te lo tieni a fianco, quel bandito promuove lo Jussoli. 800.000 potenziali islamici che diventeranno italiani. Non sono tutti islamici. E andranno direttamente in Parlamento. Quando l'Islam va in Parlamento, noi dove cazzo andremo a metterci? Stanno crescendo più di noi, fanno figli a volontà più di noi. Ma se i veri italiani, che io considero il popolo più grande del mondo, il più grande in assoluto, che sta sparendo, anche col contributo di quel criminale che è a fianco, io devo salvare l'Italia. Ma come fai? Devi ricominciare a salvare la tua salute, la nostra creatività, la tua salute. Puoi da manettare. Quando dicono che noi che viviamo con le pensioni degli immigrati, ma gli sei staccato il flebo? Perché con 5 milioni di italiani disoccupati, allora sbattiamo fuori tutti questi immigrati, ma fuori con le spranghe, fuori dai coglioni con la sinistra davanti, e poi assumiamo tutti gli italiani disoccupati. Questo è uno Stato, ragazzi, da mangiare a milioni e milioni di migranti sfaccendati, muscolati, malati di AIDS, che non sanno nemmeno che cazzo è l'Italia, ma hanno capito che c'è la sinistra criminale che li fa entrare, la sinistra criminale, i magistrati dovrebbero aprire come di cattabuglie per mettere dentro, ripeto ancora, Prodi, Renzi, quella faccia da merda di speranza, poveretto, che c'è speranza? Sono tutti degli assassini. Allora tu mi devi mettere questo piccazzo davanti, questo piccazzo davanti all'Italia, voglio piccazzo davanti a me, non l'offendere più l'Islam, premetto che io non l'ho mai offesa lì, dico soltanto che una religione che fa scorrere mari di sangue in Italia, qua purtroppo in televisione escono soltanto assassini ideologici, criminali che dicono che l'Africa deve entrare in questo, un'Africa fatta di gente di merda, italiani, brutta gente, non hanno mai costruito un cazzo, se la prendono sempre con l'Europa, italiani, allora cosa? Donato, italiani. No, io non dico queste cose perché non c'è meno bisogno. Fermo lì. L'Italia è un grande paese. E poi piange. Ciao. Tipi da zanzara. Bene, ragazzi, dove andiamo? Andrea da Napoli, vai Andrea, vai. Ciao Giuseppe e ciao David, non so se sta ancora là quell'altro. No, sei andato, dimmi. Pure dei coglioni, meglio. Senti, ma ti volevo chiedere, come hai vissuto il dietro fronte del Sun, tu che hai cavalcato così tanto l'onda di quell'articolo su Napoli? Niente, nessun modo, vale quello che si scrive all'inizio, quello che c'è dopo, le scuse, togliere, dietro fronte. Cioè, tu sei convinto? Io non confermo Napoli niente, l'ha scritto il Sun, mettendo Napoli in quella lista, avranno avuto le loro ragioni, io non confermo nulla, non ho bisogno di confermare niente, ma non lo so, dico semplicemente che non è un caso che è stato messo lì, poi bisogna vedere pure quei bollini a cosa corrispondevano. Ma che c'entra, il fatto che una città abbia dei problemi vuol dire che parlavano di microcriminalità e di criminalità organizzata. E da questo punto di vista, si può paragonare alla Giamaica, all'Iraq e a quei altri posti di merda, che c'entra? Ma no, si sta parlando di metropoli. Io non lo so, non ho fatto io la classifica. Rivolgiti al Sun, rivolgiti a Londra, fai un viaggio lì, vai a protestare, vai a fare una manifestazione sotto il Sun. Sto dicendo che tu sei rincoglionito, che sei convinto di questa cosa. Rincoglionito lo dice a tua sorella, innanzitutto. Vabbè, però stai calmo, se no tu lo dici a tua nonna. cioè, no, dillo a tua sorella, rincoglionito. Io non sono rincoglionito per ma niente. Ma se uno pensa che Napoli è fra le 10 città più pericolose, io non lo penso. Io ho riportato quello che ha scritto il San, no, e ho detto che non è un caso. Ho detto che non è un caso. Certo, non è un caso. Certo, amico mio, lo spettacolo che si offre spesso da parte della città di Napoli, ma non del complesso della città di Napoli, è di alcune frange della città di Napoli. Quindi i milioni di turisti che vengono sono dei pazzi, ma assolutamente no. Lo spettacolo, beh, quelli che ogni tanto arrivano con le navi e cui viene strappato l'orologio, che vengono rapinati, non sono così contenti, amico mio, non sono così contenti. Comunque, Andrea, sì, ma se fosse così pericoloso, vabbè, allora è come dire Cusani tra i 10 uomini più brutti d'Italia. Scusami, come no, si ma... fa a dire? No, ma Andrea, cioè, scusami un attimo, non fare paragoni, non fare paragoni patetici e ridicoli, non fare paragoni patetici. Ridicolo il tuo modo di riportare queste no, stronzate. No, amico mio, tu esiste un altro posto in Italia, forse sì, non so quale, dove negli alberghi, come abbiamo dimostrato facendo delle telefonate, ti dicono: guardi, però prima di uscire da qua, lei dovrebbe meglio che lasci un Rolex, l'orologio, tutti i suoi averi, tutti i suoi beni, tutti i suoi oggetti nella cassetta di sicurezza qui in albergo, non li porti fuori. Esiste un'altra città, a Milano, te lo consigliano, centrale, te lo consigliano, ma quello può violinate. Succedere in tutte le metropoli. Esistono degli alberghi che ti consigliano. Quando arrivi in albergo a Milano, quando arrivi in albergo a Roma, quando arrivi in albergo a Firenze con la macchina, non ti dicono: scusi, è meglio che la macchina però la lasci qui nel garage dell'albergo, sempre se poi rimane intatta, ma anche nel garage dell'albergo. Non ti dicono, non ti consigliano di non portarla fuori. Ma ci sarà una ragione a tutto questo o no? Ci sì, sarà una ragione, qual è la ragione? Qual è la ragione? La rendono una delle città più pericolose. Ma non d'Europa. Lo so, ma lascia perdere le classifiche. C'è un altro tu posto. Metti in mezzo alla classifica. C'è un altro posto di articolo, non mica io. C'è un altro posto in Italia dove gli albergatori ti consigliano di lasciare la macchina al garage dell'albergo stesso, dove ti consigliano di non portare fuori un orologio? Esiste un altro posto? Sì, ma sono sì dei casi limite. Chissà che cazzo di alberghi hai chiamato. Sì, i casi mica limite. È che hai fatto una statistica, uno studio approfondito. Ma no, parli come sempre per dare Andrea, fiato alla bocca. Parliamo no, di dare fiato alla bocca, quello lo facciamo tutti per fortuna, perché altrimenti se la bocca non tirasse fuori il fiato saremmo morti. Clinicamente morti, per cui il problema non è questo. Siamo qui per anche pagati per chiacchierare, per parlare. Io sono convinto che alcune caratteristiche, non è che ce le abbia solo Napoli, ma sono caratteristiche tra le più pericolose del mondo, tra cioè, le città, certamente tra le metropoli più pericolose che ci sono, no, nel mondo, non lo so, ma comunque tra le metropoli dove bisogna stare molto attenti, bisogna insomma avere un occhio di riguardo per la propria sicurezza. Non è che vai lì e dici: ah, vado in giro. No, devi stare attento, punto. Sì, ma devi stare molto molto attento. Se fosse veramente come la classifica non è così, del vabbè, hai ragione tu, non verrebbero, è così. Verrebbero così tanti turisti, sarebbero ma dei non pazzi. Lo so, ma va benissimo, i turisti, va benissimo che vengano, ma è ottimo, stupendo, meraviglioso che vengano i turisti. Napoli è una città stupenda, meravigliosa, bellissima dal punto di vista estetico, chi lo mette in dubbio? Sto dicendo semplicemente che ha dei difetti, vabbè, che non esistono in altre difetti, città, ma esiste un posto dove si sparano, la gente si spara per strada, certo, ma i turisti vedi, non se ne accorgono. La gente si spara per strada, se succedono degli episodi del genere, non ci sono. No, non ci sono le bande di, come le chiamano adesso in gergo non mi ricordo, le bande di ragazzetti col fucile in mano, come le chiamano, tu che sei napoletano, come le chiamano queste bande? La paranza dei bambini, vabbè. Esistono in altre città? Esistono le paranze c'entra? In altre città? Che c'entra? Sì, che c'entra? Sì, ma non è che pensano al turista, scusa amico mio, non è che pensano al turista che va all'Affi magari con col taxi a visitare i monumenti principali, sta un po' attento e poi va via da Napoli dopo quattro giorni ed è contento. Invece a Los Angeles non ci stanno le facce di la valutazione. Con le mitraglie, ma la valutazione lì, certo, in alcune zone molto precise e limitate. Perché secondo te invece qua dovunque ti giri si spara? No, ma non tutto... ho detto questo, ho detto semplicemente: è vero o non è vero che ci sono queste paranze? Esiste un'altra città in Italia dove esistono fenomeni del genere? Sì o no? Limitiamoci all'Italia, esistono o non esistono? Ma non c'entra niente con l'essere contro o a favore di Napoli, amico mio, ma non c'entra nulla. Ma tu sei contro Napoli, per me, un io adoro, io poi conosco. Ma le troiate, il Sun è un giornale popolare, è un giornale che può essere paragonato, che ne so, a un nostro Libero, un nostro, appunto, un a un giornale nostro... comico. Ma è un giornale comico, questo lo dici tu, è un giornale, non è assolutamente un giornale comico, un giornale che è un giornale aggressivo. Ma il titolo di Libero, i napoletani si incendiano da soli, era un titolo normale, secondo te? Assolutamente era... sì, un titolo che è puro genio, puro genio. È puro genio, cioè puro una stronzata così sparata, vabbè, giustamente puro tu genio, puro ti piace genio. Questo modo di fare, quindi ma assolutamente mi piace. No, ma mi piace. Dieci stronzi che appiccano un incendio possono qualificare scusami, tutta la popolazione no, che invece subisce magari capito, anche questi devi capire, Andrea, che se no te lo spiego con le figure, se vuoi, che i giornali, tutti dal primo all'ultimo, chi più chi meno, ma sono abituati a sintetizzare, a fare dei titoli che sintetizzano. Dunque, se tu immagini un titolo di un giornale, una parte di napoletani, una piccolissima parte, quattro napoletani appiccano il fuoco ma gli altri sono contrari, secondo te è un titolo che si può fare? Ma è un titolo, invece il titolo è un titolo che si può fare Liguria, o no? Toscana, ma poi, ma scusa, ma Andrea, ma che te ne... il titolo è si incendiano da soli oppure il titolo ma è che magari te ne frega? Emergenza, allarme ma che... incendio, cose... D'accordo, benissimo, ma che te ne frega a te di come titola Libero alla fine? Che te ne frega? Te vivi a Napoli, che cazzo te ne frega di come... Non lo comprare se non ti piace, qual è il problema? Cioè, qual è il problema? Potrò dire che è un titolo fatto col culo. Va benissimo, ma sono i titoli di giornali popolari, di giornali aggressivi che utilizzano questi titoli qua, perché altrimenti non venderebbero una copia. Cioè, ma è normale, no? Sono giornali patetici, devono ma non è vero, perché una, no, ma perché una parte di, perché una parte di realtà c'è. Chi è che ha appiccato l'incendio? Napoletani? Sì. Che cosa hanno appiccato l'incendio? A Napoli stessa? Sì, è vero, è così. A meno che uno non pensa. Allora, chi è? Allora i romani si rubano da soli con Mafia Capitale. Qual è se il uno appicca un abitante... italiani si uccidono da soli e come no, certo, omicidio. Ma infatti l'hanno chiamato l'hanno chiamato la Mafia Capitale perché prodotti autoctoni, diciamo romani, tipo Carminati, tipo Buzzi, rubavano anche al comune di Roma. È molto semplice. Sergio da Genova, quindi, grazie Andrea, grazie. Si può parlare. Che cosa? Che insulti alla fine così lasciando? Che fai? Non hai il coraggio di insultarmi in faccia? Non ho capito. Chiudi così d'amblè per non essere ma che 5 minuti ma è 5 minuti che stai al telefono, Andrea, 6 minuti che stai al telefono, abbiamo discusso, vabbè. Che vuoi dire più, che vuoi aggiungere vabbè, più, spiegami. Purtroppo ho acclarato che ti piacciono questi titoli e che fai un giornalismo demenziale. Ciao. Vabbè, allora ascolta che ne so, sì. Che radio e leggi del Corriere della Sera, che cazzo ti devo dire. Va Sergio bene. Da ciao. Sergio ciao, da Genova, ciao Giuseppe, dimmi ciao David. No, niente, ti volevo raccontare una brevissimamente un'esperienza che ho avuto con una mia amica che ha voluto provare l'ebbrezza del massaggio cinese. Sì. Siamo andati in questo massaggio cinese nel quartiere di Cornigliano. È entrata. Ma che in due? O da sola? In due. Ma no, perché parlando lei mi ha detto, mi ha confessato che gli piacciono anche le donne, specialmente le cinesi, allora l'ho accompagnata. Beh, sai, l'ho fatto anch'io tempo fa, non è che stai, come dire, ripetendo la mia stessa esperienza, Sergio. Lei hai accompagnato questa tua amica in onda a un massaggiatore cinese a Genova, al centro a Genova, giusto? Esatto. E poi lei è uscita subito, mezza spaventata. Perché? Detto, ma siamo andati via, poi gli ho detto, ma cosa è successo? Non ti dico il nome. Cosa è successo? Mi ha detto niente, mi ha detto l'ecofiga con pellicola. Cioè? Cosa? Voleva leccargli la patatina con la pellicola di cielo, fan tipo, sai quelle del Domopak? Non ce lo posso credere, cioè la cinese voleva fare così? Voleva fare così, mi ha detto che gli ha proprio... Cioè, praticamente voleva mettere il preservativo alla figa lingua, della tua amica? Alla no! Ma non ho capito, nella lingua se lo voleva mettere? Sì, nella lingua un po' anche non, nella... non attaccato, diciamo, alla vagina, si voleva mettere una specie di pellicola sulla lingua? Sì, ma la cosa comica è come gliela... Ma scusa, amico mio, ma mi dai il numero di questo massaggiatore cinese, per favore, di questo centro massaggio? Ce l'hai o no? Non ce l'ho, te lo giuro, so dov'è, guarda, ti dico anche il quartiere, Cornigliano. Ma vammi a recuperare il numero, voglio capire questa esperienza pazzesca, cioè praticamente, lei l'ha fatto o no? Ma poi io sono tornato indietro, me l'ha ripetuto a me l'anziana, diciamo, no? Con la cinese, ma amico mio, Corigliano, allora Corigliano, dobbiamo beccare questo... Cornigliano, cioè praticamente Cornigliano. Questa massaggiatrice cinese, massaggiatrice, insomma, questa entrepreneuse... La maitresse, eccetera, voleva leccare la figa alla tua amica, ma imbavagliandosi la lingua col cellophane. No, mi sono spiegato male, gli mandava un paio di ragazze, no? Però gli ha detto, l'ecofiga con pellicola. Io sono tornato indietro poi perché mi sembrava troppo strano, no? E poi sono andato alla metraggio e ho detto, signora, ma come mai la mia amica mi ha detto, subito mi ha detto, culo niente, ma lei non le aveva chiesto, culo niente, l'ecofiga con pellicola, e mi ha tirato fuori di nuovo il domo per farmi vedere la pellicola. No, ma non ho capito, adesso, allora si chiama La Perla per caso? No, non ce n'ha nome, guarda. Non no, ma nome. Si chiama La Perla? No, ti giuro, è in un appartamento lì sul ponte di Cornigliano. Cioè, ma come vuol dire un appartamento, scusa? È in un appartamento dentro. Ma non c'ha, non è un centro massaggio, diciamo, tradizionale con delle insegne, con delle cose? No, è di quelli a Uma Uma, sai, quelli. Dove fanno i massaggi? Ma secondo te è un'usanza del posto? Potrebbe essere una nouvelle vague dei massaggiatori cinesi, dei massaggi ma cinesi. Devi vedere come l'ha detto. L'ecofiga copellicola, ma proprio L'ecofiga copellicola, ma io non ho capito bene. Questa pellicola dove andrebbe, come si mette? Te lo sei fatto spiegare? Sì. Ha detto che ha tirato fuori e non ha fatto il gesto completo, però ha capito che gliela volevo mettere sulla vagina. E poi le cagli là con, diciamo, con no, ma io non ho, ma scusami un attimo, Sergio. Prima hai detto che va sulla. Io prima ti ho detto: beh, allora sopra la vagina sta pellicola o attorno alla lingua? Come un preservativo nella lingua, cioè, non hai capito? L'atto non si è ti spiego, l'atto, da come l'ho spiegato lei, non si è compiuto completamente. Cioè, è lei d'accordo, appena... ma dove lo voleva mettere sto domo? Lo voleva mettere sulla vagina, no? E poi fargli il lavoretto, però in modo, diciamo, come dire, asettico. Vabbè, capito? Certo, senza il contatto diretto tra la lingua e la vagina. Allora, non è mettendosi il domo pack sulla lingua? Anche, ma mi sembra che abbia fatto un mezzo gesto la ragazza per mettersi anche sulla lingua. Vabbè, comunque indagheremo. Vai, torna là, fatti dare i numeri di telefono da questi cialtroni, dai. Poi ti chiamo, dai. Ciao. Culo niente. Ma come culo niente? Culo niente. Poca figa massaggio. Allora, io direi in conclusione di andare con Massimo dalla provincia di Treviso velocemente. Vai, Massimo, dai. Buonasera. Volevo dire che sono dalla parte dell'orso, perché ritengo ma che... Ma come si fa a essere dalla parte del rosso? Mi spieghi dell'orso, mi spieghi. Che il massimo della pericolosità l'abbia già espresso, perché non ci sono dati in letteratura... Ma ho capito, ma amico mio, ma quello ha già... Non è vero, perché quell'orso là ha già... che poi pare che sia una femmina, ha già 2 anni fa... assaltato un'altra persona, ma adesso a me non me ne frega niente. Ha assaltato, e questo è il punto: non ha assaltato. Ma è uguale, non mi interessa. Non sei qua a raccontarlo se attacca. Ma amico mio, ma l'hai sentito il racconto che ci ha fatto? Hai sentito il racconto che ci ha fatto quel signore? L'ho sentito. E allora, se l'hai sentito, punto e basta. Dai, ma fate terrorismo mediatico. Dovreste sentire anche chi ci lavora, chi fa ricerca, chi li cattura per inanellarli. Ho sentito di uno che l'ha catturato nella rete per sbaglio, è andata male l'anestesia, questo si è liberato, gli è andato davanti, gli ha fatto le dimostranze e poi se n'è andato. Il massimo che può fare è questo. Ma ho capito, la maggior parte potranno fare così e nessuno li vuole cacciare, nessuno li vuole ammazzare. Questa qua in particolare mi sembra che si sia un po' specializzata, certo non tutti i giorni, perché non è che tutti i giorni vengano allo scoperto. Dopodiché decideranno le autorità. La cosa ridicola è che ci siano degli ostacoli al fatto che questa qua deve essere colpita, anestetizzata, è messa a dormire, uccisa. Non è importante, un orso in meno non cambia nulla. Se uno è pericoloso, se l'orso è pericoloso, venga. Per bracconaggio, ma quella è un'altra cosa. Venga ucciso se è pericoloso, se minaccia le persone. Venga ucciso, se uno minaccia le persone, deve essere ucciso. Punto e basta. Fermi tutti, ragazzi. Che ci sono che c'è? Che ci sono una marea di animali pericolosi, cani o che. In questo caso c'è un orso pericoloso, vivo e vegeto, come dire, che ha azzannato gravemente una persona che avevi sentito pochi minuti fa qui alla Zanzara. Che vogliamo fare con questo orso? Lasciarlo ancora in libertà? Non si può, non rompete i coglioni con queste cose animaliste ridicole. Ragazzi, ci sentiamo domani, ciao. Viva i frasi! Viva i frasi! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.